Pronto. Andiamo, ok. Benvenuti, bellissimo inizio, già con probabili problemi tecnici, quindi aspettatevi una puntata interessante. Ma come dicevo, benvenuti al 31esimo episodio del nostro Focolare Elettrico, podcast in cui parliamo di videogiochi e game design. Io sono Marco. Io ero silenziato, ma sono Iago. E prima di immergerci nell'argomento di oggi, partiamo subito con le nostre amatissime rubriche. Quali sono gli ultimi updates del mondo dei videogiochi, Jacopo? Allora, abbiamo un po' di cose un po' diverse, un po' di misticotte. Abbiamo Microsoft che vuole comprare Discord per 10 miliardi. Così. Se volete un paragone... Bruscolini. Se... Bruscolini, esatto. Se volete un paragone, Star Wars è costato tipo 4 miliardi da Disney. Quindi proprio soldini. Però tipo LinkedIn erano, non so, tipo 16 miliardi o 36 o 26, non mi ricordo. Finisce con 6, mi pare, l'acquisto. E, io spero che Discord non vada a peggiorare. Spero che questa acquisizione, che in realtà non è sicura, porti Discord su altre piattaforme, quindi su Xbox, eccetera. Però molta gente questa notizia l'ha presa come la Microsoft aveva uno spazio libero nel cimitero, voleva sotterrarci Discord, o un'altra compagnia che verrà portata da Microsoft. Non so, quando ho letto la notizia, invece mi... So perché mi è venuta in mente la scena di me, che tipo prende un Humble Bundle o qualcosa del genere per avere il gioco su Steam e poi non toccarlo mai più o cose del genere. Questa è la mia speranza. Diciamo che... Allora, io capisco che ogni volta che una compagnia ne compra un'altra è brutto, perché dici, cavolo, ma esiste solamente una compagnia, cioè nel senso, perché non possono rimanere indipendenti? Il problema è il capitalismo. Però dico, esistono compagnie peggiori che possono comprare Discord, e un po' dico, non rompete il cazzo, cioè nel senso, come dire, è un'occasione per dire, ok, se Discord era così centrale, così importante da tanto tempo, era così diffusa come canale, cioè principalmente per utilizzo per gaming, insomma, magari se peggiorerà o rimarrà stagnante per questa acquisizione, non vuol dire che non sarebbe rimasta stagnante senza l'acquisizione, cioè magari è solamente un problema aggiuntivo o un discorso aggiuntivo che porterà alla sua fine, perché non può rimanere. Secondo me il problema di Discord è che non ha un vero e proprio introito, no? Cioè, sì, ci sta i vari Discord Pro o come si chiamano, Nitro, non mi ricordo. Certo. Microsoft, secondo me, cercherebbe di farlo diventare, e quindi tutti quanti scapperebbero da un altro competitor che sorgerebbe a raccogliere. Esatto, così come Discord è arrivato quando Skype ha iniziato a fare abbastanza schifo, magari ci sta. Skype non ha mai fatto uno schifo. È arrivato schifo. Perché c'era Skype, chi lo sa, magari forse un'altra nuova compagnia di qualcosa creerà un altro software per le comunicazioni, chissà se giungerà. Magari si passerà tutti su Telegram, con le chiamate su Telegram, chi lo sa. Magari faremo noi un software di chat, di gaming. Poi quando hai detto poteva essere comprata da una compagnia peggiore, mi è venuto in mente tipo adesso, settimana prossima, Steam viene acquistato dalla Apple o qualcosa del genere. Oh no! Ma in realtà, se Discord fosse acquistato da Apple non mi dispiacerebbe. Diciamo che le compagnie peggiori a cui mi riferivo sono Tencent, Epic, EA. Cioè... Parlando giusto appunto di ive compagnie, Esatto, cattive compagnie. Cioè... c'è stata una compagnia che ha fatto qualcosa di molto... esatto. Astro. Nella stessa settimana in cui la Microsoft veniva insultata per aver quasi comprato Discord mentre faceva altre cose con... cose zozze con gli sviluppatori di MLB The Show, lasciamo perdere, gli store di Sony sono stati chiusi, cioè, o meglio, hanno annunciato la chiusura a breve degli store di PSP, PS Vita e PS3. Il problema, come diceva Marco poco fa, è che gli sviluppatori non lo sapevano. Cioè... è stato veramente così una cosa... un fulmine a ciel sereno, ecco la frase che cercavo, no? Non si aspettava nessuno e così hanno detto, basta, chiudiamo gli store. Pochi giorni fa è uscito il rumor e uno sviluppatore ha scritto un tweet dicendo io spero proprio che non sia vero perché abbiamo appena comprato un developer kit per PS Vita e la Sony non ci ha detto nulla. Quindi... ha detto ok, abbiamo buttato soldi, giustamente. Ma il vero problema, secondo me, è che alla fine gli sviluppatori che ancora stavano sviluppando per quelle piattaforme, oddio, è vero che PS Vita magari aveva ancora una nicchia in alcune nazioni. Sai che in Giappone la PS Vita in realtà sì, vada ancora abbastanza, sai? Sì, cioè, diciamo che per alcuni tipi di giochi, per alcune nazioni come il Giappone, ancora andava la PS Vita, non era una piattaforma abbandonata. Però, diciamo che secondo me il vero problema è tutti quei giochi che erano solo digitali e che scompariranno praticamente, non saranno più disponibili. Quindi ci deve essere un lavoro, qualcosa che garantisce la possibilità di poter almeno... accedere in senso archivistico, no? Cioè, in qualche modo archiviare, salvare, preservare questi giochi che non saranno più in nessun modo recuperabili, insomma. Spero. Tu ti chiederai, ma questa cosa c'è su tutte le piattaforme? E in realtà sì, solo che un po' non ce ne fregavamo un cazzo perché erano una alla volta, tanti anni dopo, no? Tipo... che ne so, lo store di Wii Shop, no? Per esempio. Cazzo, sono passati tanti anni, così. Poi era solo Wii Shop. Un po' alcune altre aziende stanno cercando di integrare i vecchi store con i nuovi, tipo la Microsoft che ha giochi anche per Xbox One o per 360 nello store nuovo, insomma. Secondo me la notizia è venuta fuori principalmente perché erano tre piattaforme nello stesso tempo e la PS Vita era ancora non completamente morta dappertutto. Insomma. Ci sta. Quindi, io spero che vengano rimborsati gli sviluppatori e vengano preservati i giochi in qualche modo. Sì, tiene anche da pensare un po' con queste cose qui, quando succedono queste cose, da un certo punto di vista è anche che è un dispiacere, da un punto di vista, non lo so, di culturale, se possiamo così definirlo, nel senso che comunque il perdere completamente la possibilità di giocare a qualche titolo, per quanto di nicchia, magari ogni tanto si trovano delle piccole perle in mezzo a tutta la spazzatura che ci può essere in uno store di videogiochi, online soprattutto, però è sempre un peccato, è comunque una parte di cultura che viene un po' perduta ed è da questo che nascono tutte quelle cose tipo l'archeologia videoludica e cose del genere. Da un'altra parte sarebbe un minimo di decenza da parte delle compagnie, che voglio dire, quanti soldi mai potranno... cioè, se li chiudono vuol dire che non ci ricavano così tanti soldi da queste cose qui. Ma tipo, dare il via libera a cose come l'emulazione di vecchie console, cose del genere, renderlo non più vista così di cattivo occhio, così che anche magari per cose che a loro non interessano più perché sanno che non gli dà più soldi, non gli fa fare più tutti questi soldi, lo lascino fare a chi ce n'è un po' appassionato, che tutti quelli che hanno programmato vari emulatori di PlayStation, console Nintendo e tutto quanto, essere un po' legittimizzati per questa cosa. Non so, piccolo rant. Non succederà mai. ma io sono un sognatore, Jacopo. Ma ci sarebbe, a parte la musica di Scrubs, come con JD inclino la testa verso sinistra. E... No, qui effettivamente dobbiamo fare una nuova serie che non è rant, ma è piccolo rant, e fare queste lamentele. Rant. A turno. Speed rant, ecco. Speed rant, esatto. Faremo una puntata di piccoli rant da 5 minuti alla volta, a turno. Da qualche parte, aspetta. Ma parliamo di cose più allegre, dai, un po' più. Esatto, allora parliamo di giochi. Allora, prima aveva citato nei download updates It Takes Two, che è il nuovo gioco di Joseph Fares, che è quel matto delle gare che diceva fuck the Oscars, che è un appunto un regista e diciamo game director che ha fatto giochi come Brothers, A Tale of Two Sons, che è bellissimo, va a giocatelo se potete, e ha fatto anche A Way Out, e diciamo sulla scia di A Way Out ha fatto quest'altro gioco che è puramente cooperativo che si chiama It Takes Two. Io non l'ho giocato, lo vorrei giocare, purtroppo... Nemmeno io l'ho ancora giocato. Se vogliamo, esatto, magari lo giocheremo insieme, io e Marco. Forse adesso che mi sto organizzando per farmi un computer decente. Però è bellissimo, se avete qualcuno, e idealmente penso un partner, diciamo, stabile, perché il gioco è una specie di commedia romantica, perfetto, che però parla del divorzio. Una roba abbastanza pesa, potrebbe sembrare, però in realtà è molto divertente, è molto... Cioè, magari i dialoghi tra i due protagonisti sono abbastanza pesanti, abbastanza realistici, però il gioco è tutto fantastico. Direi che l'autore è abbastanza famoso per comunque mettere temi abbastanza profondi nei suoi giochi, quindi... Diciamo... però al contrario dei suoi giochi precedenti, che erano anche come gameplay molto più, come posso dire, lenti, cioè più considerati, no? Mm-hmm. Questo è più rocambolesco, cioè proprio ogni 10 minuti c'è un nuovo gameplay, una nuova situazione da risolvere, una nuova meccanica che comunque si innesta con la discussione, no? Perché se magari i due protagonisti parlano di attrazione, quindi c'è l'attrazione che avevano fra di loro, stanno cercando di ritrovarla, le meccaniche sono con i magneti, cioè il magnetismo, no? E è carino, cioè è un po' cringe, però è anche molto carino e molto colorato, divertente, spezza un po', diciamo, la tensione. Che è un gioco che usa le meccaniche per raccontare una storia. Oh, è incredibile! È pieno di idee interessanti, non dico originali, ma perlomeno sì, interessanti. Wow, questa cosa incredibile! È bellissimo che ci siano questi giochi ora. Infatti, io stimo molto Joseph Fares, e ora che ho detto questo, probabilmente si scoprirà che è un pedofilo, perché di solito è questo che succede. lo stimo molto perché è una persona che riesce molto a trovare un mercato dove il mercato non sembra esserci. Cioè, questi giochi non verrebbero mai, cioè non sarebbero mai stati fatti 10 anni fa, mm-hmm, con questo budget. Diciamo che It Takes Two forse pensa di avere un budget superiore a quello che ha in alcuni momenti, però è molto così, cioè lui fa dei giochi che non sembrano degli indie a guardarli, ma sono degli indie completamente rispetto al panorama che c'è ora di videogiochi, come temi affrontati, come modo in cui vengono affrontati, come varietà di meccaniche. Quindi prima o poi giocherò a It Takes Two e prima o poi giocherò anche a Way Out con qualcuno. Detto questo, li prendo, dai, li giochiamo entrambi. Esatto, ce li spariamo. Adesso dicevi prima, nel senso che hai detto che apprezzi, ho già dimenticato il nome, mannaggia io i nomi, Joseph, grazie. E, si scoprirà che è stato lui a decidere di chiudere gli store della PS3, della PS Vita. Che ha inventato le loot box. Esatto, è lui che ha deciso di vendere Discord. Esatto. Ok, dicevamo, quindi, a parte questo, abbiamo giocato anche dei giochi queste settimane, dei giochi. Io ho finito Assassin's Creed Valhalla, ma ne parleremo in un episodio a parte, perché io, allora, in realtà spero di essermelo scordato completamente e di non pensarci più. Ok. Non perché non mi è piaciuto, ma perché ci ho messo 90 ore a finirlo, quindi già è troppo. In realtà alla fine mi è piaciuto, ho cambiato idea alla fine sul gioco, però questo, insomma, principalmente Assassin's Creed Valhalla ho giocato. Mm-hmm. E invece, ovviamente, è uscita la mia nuova droga settimana, uscito il 31 marzo, The Binding of Isaac Repentance, l'ultima espansione, almeno quella che forse veramente stavolta sarà l'ultima espansione ufficiale del gioco, fino a quando Macmillan tra 5 anni non troverà un'altra mod che gli piace particolarmente, la renderà ufficiale. E, come dire, un po' ancora sbilanciata, forse un pochino, secondo mia modesta opinione, però è anche vero che sono un po' arrugginito, quindi potrebbero essere le mie dita essere un po' fuori allenamento per questa cosa. Compratela e quando avete finito di sbloccare tutti i 600 e passa achievement potete prendere seriamente in considerazione di trovare un buono psicologo, nel caso ne ho uno buono da consigliarvi, e probabilmente riconsiderare alcune parti della vostra vita. Detto questo, direi che io ho finito di dire quello a cui ho giocato io. Sì, abbiamo finito con gli aggiornamenti e direi che questa puntata continua una piccola categoria, no, come l'avevamo chiamata, una piccola un piccolo genere, un sottogenere delle nostre puntate, in cui stavolta sono stato io, ho proposto una puntata in cui nemmeno io ho bene idea di che cosa vogliamo parlare. Strano, perché di solito siamo così chiari nei temi che vogliamo affrontare. Assolutamente, le nostre puntate sono sempre oggettive, con citazioni a ricerche e tesi scritte da professionisti. No, ma scherzi a parte, come potete vedere, come forse qualcuno di voi avrà intuito dal titolo della puntata, ovvero S-Rank, che per i meno avvezzi è un riferimento a una meccanica. Si può definire meccanica, sì, è una meccanica di alcuni giochi particolari, alcuni generi di giochi. È una di quelle classiche idee che si ritrova molto nei videogiochi giapponesi, ovvero quella del dare un voto finale al completamento di un livello, di un livello del gioco, o di uno stage, inteso come letteralmente palcoscenico, ovvero una ambientazione, una delle divisioni del mondo di gioco. E abbiamo voluto usare questo titolo per questa puntata perché, giustamente, con il voto più alto che è possibile ottenere di solito in questo genere di giochi, vogliamo parlare di quei giochi che hanno avuto una S, hanno avuto voto massimo per quanto riguarda lo stile con cui sono stati creati, scritti, immaginati. Quei giochi che più di tutti gli altri, più dei classici titoli che escono ogni anno giusto per uscire ogni anno, purtroppo è quella la verità molto spesso, hanno una personalità, hanno un cuore, hanno uno spirito, sembro Sabaku in questo momento, ma l'anima dello stile. Esattamente. Però sì, hanno quel qualcosa in più, quel je ne sais quoi, che anche che solo a vederli, uno, ti fa riconoscerne il loro autore, perché appunto è uno stile inconfondibile, come guardare un quadro di Van Gogh, lo riconosci subito dallo stile. E allo stesso tempo utilizzano questo loro qualcosa in più per creare un'esperienza, beh, unica nel suo genere, non... o che perlomeno quando altri cercano di replicare si sente sempre un po' quella mancanza, quel qualcosa che manca in questo caso, al contrario dell'originale, no? E l'effetto che si ha al guardare una copia, ad avere tra le mani un'imitazione di qualcosa di più interessante, di più studiato, di più elevato? O sto sfinendo i termini altisonanti, Jacopo, aiutami tu. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, però... Questo è omorfismo. Insomma, di pure. Vai, no, di tu. No, niente, io stavo giusto finendo dicendo sì, questa dovrebbe essere più o meno l'idea, il concetto di cui vorremmo parlare oggi, ma da come probabilmente avete intuito in questi miei 5 minuti di introduzione, in cui ho ripetuto sempre la stessa cosa senza nemmeno io ben sapere che cosa stessi dicendo, non è facile descrivere l'idea che mi è venuta in mente di portare per questo episodio, perché ammettiamolo, questa volta è stata completamente colpa mia. E spero di spiegarmi un po' meglio con gli esempi che faremo, ma di nuovo è una cosa forse più istintiva, più primordiale e meno da lobo frontale, questa, più da cervelletto, mettiamo, no? Adesso... più da emisfero sinistro? Oddio, qual è l'emisfero creativo? Dovrebbe essere il destro, credo, se non sbaglio, no? Possibile. Visto che ho detto per il sinistro, è sicuramente... No, mi sembrava perché c'era la cosa delle mani, può essere... Ah, ok. Comunque, non cambiamo, aggiungiamo un altro discorso. Non cambiamo assolutamente niente. Allora, diciamo questo, per riassumere un po' quello di cui andremo a parlare. Abbiamo cercato, quando abbiamo fatto la chiacchierata di briefing, diciamo, di pre-missione, di pre-podcast, di definire che cos'è uno stile, ma non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo quasi raggiunto un accordo. E pensare che abbiamo tipo 0 anni di studio tra tutti e due. Esatto, non sappiamo nulla di arte. È stranissimo che non ci siamo riusciti, vero? Non ci siamo riusciti. Allora, lo stile, quindi, abbiamo detto, è un'impronta, è una... come posso dire? Un qualcosa che trascende la... la qualità. Una cosa può essere stilosa ma farti cagare. Guardate una scheda di moda per rendervene conto. Ci sono miliardi di parodie che dicono: ah, ma questo è arte moderna, è un estintore. No, cioè, lo stile può essere qualcosa di over the top, cioè di qualcosa che è rilevante, che salta all'occhio, o può essere una cosa che è diffusa nella trama dell'opera. Nella trama intendo non la storia, dico la trama come il tessuto, no, dell'opera, ma siamo abbastanza d'accordo nel dire che di base è una cosa visiva. È quello di cui vogliamo parlare oggi, non è qualcosa che è nelle meccaniche. Ovviamente, se poi è anche nelle meccaniche e aumenta la parte visiva, la informa e altro, ovviamente c'entra anche quello, fa tanto anche quello, però il, come posso dire, l'elemento principale è la parte visiva o audiovisiva immediata. Perché appunto l'idea, secondo me, è che deve essere riconoscibile immediatamente. Il problema è che questa immediatezza e il riconoscere o no dipende dalla persona. Il cosa è stiloso o no dipende dalla persona. La prima cosa su cui ci siamo scontrati è nel fare questa lista di esempi che vi presenteremo a breve, è che alcuni a me dicevano sì, questo cioè, ha stile, alcuni a Marco no, e viceversa. Però la domanda su cui ci siamo concentrati alla fine, che è la domanda di questo episodio, è: quali sono i giochi che riconosceresti in mezzo a mille? Che è la domanda che mi ha fatto Marco. È una domanda, secondo me, che nasconde... No, che nasconde, che include, scusate, che include il problema. Perché quali sono i giochi che riconosceresti tu in mezzo a mille? Magari in quelli che diremo ci sono anche i vostri, però se non ci sono o se ci sono giochi che non hanno stile secondo voi, insultateci, mandateci messaggi minatori e... mandateci messaggi, non abbiamo ancora ricevuto niente, ci sentiamo soli, manco una mail, esatto, manco una bomba, niente, da soli in questa quarantena. Allora iniziamo. Solo una cosa, visto per, giusto per fare sempre il bastian contrario un po', dicevamo, stavo pensando la settimana scorsa, che ci pensavo un po' da quando l'avevamo accennato nella nostra chiamata in preparazione, ed è assolutamente vero, nel senso che oggi parleremo più di grafica che gameplay, no? Che è la cosa che più va contro la mia natura di giocatore in questo momento, però sì, appunto per parlare di stile dobbiamo concentrarci un po' di più sull'aspetto visivo del videogioco. E è vero, sono d'accordo, ma stavo anche pensando effettivamente se non ci fossero esempi di meccaniche che rappresentano lo stile, cose del genere. È venuto da pensare che in effetti molto spesso, se ci sono, è molto difficile notarle, perché il concetto della meccanica deve essere qualcosa che viene nascosto quasi al giocatore. Il giocatore comune non va a ragionare sulla filosofia di una meccanica, su il perché certe cose sono state fatte in un certo modo, eccetera. E quindi penso sia... Quindi forse in realtà esistono esempi, o comunque lo stile va a rimettersi anche nelle meccaniche, solo che non è facile accorgersene. Stavo pensando se c'era un esempio di qualcosa di questo tipo, e l'unica cosa che mi è venuta in mente, così proprio istintivamente, è stata nella saga di Final Fantasy, una cosa che forse definirei come un tocco di stile, un tocco di classe, una piccola nota d'autore, è come in un combattimento, in uno dei combattimenti, nel sistema di combattimenti, ecco la parola che cercavo, i mostri di tipo non morto sono deboli, cioè hanno l'effetto contrario per le cure, ovvero le cure li danneggiano. E quindi una delle meccaniche più interessanti, per esempio, è usare una pozione che cura tutti gli HP per infliggere tutti gli HP di danno al mostro avversario. E non so perché mi è venuto in mente, forse questo potrebbe essere un esempio di qualcosa di unico nel suo genere, un'anomalia, una sottigliezza che tu dici ok, carina come cosa, però se ci pensi quasi nessun altro prima e dopo ci ha pensato a una cosa del genere, ed è una piccola firma da parte dell'autore della saga. Quindi anche nelle meccaniche forse si può trovare qualcosa, però è estremamente difficile, cioè, come dicevo, l'unico esempio vero concreto che mi viene in mente era questo, per cui oggi ci concentriamo un po' più sull'aspetto esteriore, mettiamola così. E però ci tenevo a fare questo piccolo accenno, perché sì, non rompetemi il cazzo, va bene? Prego, Jacopo. Bene, molto posato, molto ragionevole. Io in realtà dicevo più per un discorso di... cioè, io non sono d'accordo con quello che dici perché non va un po' contro la immediatezza che cercavamo, però, come dicevo, cioè, il gameplay, la meccanica può informare lo stile, può influenzare la percezione di unicità, di impronta che puoi avere da un gioco, quindi non lo escludo a priori, insomma. È solo per dire che è meno immediato. Come dicevi tu, per forza di cose, la meccanica è una cosa nascosta, tra virgolette. È quella parte che va un po' intuita dal gameplay. Mm-hmm. Invece quello di cui parleremo oggi è qualcosa di meno difficile da intuire, più difficile magari da analizzare a volte, però da capire appieno. D'altronde noi siamo qui per questo, le nostre intelligenze. Esatto, noi siamo esperti, lo faremo qui per voi. Quindi cominciamo da due nomi che penso quando una persona nomina la parola stile o soprattutto S-Rank, i primi due nomi che devono venirti in testa per forza sono questi. Beh, d'altronde il primissimo, quello che ho messo per primo nella lista, è quello che ha dato origine abbastanza a questa puntata, perché quando ho avuto la possibilità di giocarci ho detto no, vabbè, ci deve essere raccontata in qualche modo la stranezza, l'unicità di questo gioco. Parliamo infatti di Bayonetta, titolo uscito mi sembra PS3, se non sbaglio, il primo, ricontrollerò, che però, come dicevo, è stato, dovremmo metterlo come terzo autore di questa puntata, perché è stata l'ispirazione base per la creazione di questo episodio. Volevo parlare con Jacopo e farmi ascoltare da voi, bastardi di ascoltatori, scusate, e, di noi appunto, che non so, sparavamo minchiate su quanto strano fosse questo gioco, quanto assurdo ma allo stesso tempo avesse un carisma nato da questa sua stravaganza, e così secondo me meritava di essere un po' analizzato. E che dire di Bayonetta? Bayonetta è la storia di... Se pensi forse alla storia ti viene anche da ridere, perché non è questo capolavoro di narrativa, è la storia di una donna, una strega in questo strano mondo di luci e ombre, quindi neanche, no? C'è il bene e il male che combattono, e semplicemente questa donna, che sembra appartenere a questa stirpe di streghe, si è risvegliata nel futuro dopo aver perso la memoria ed essere stata imprigionata per millenni, e compierà un viaggio per ritrovare un po' le sue radici, scoprendo che c'è tutta una come si dice? Un gomblotto per distruggere la terra, eccetera. Per cui la storia non è il centro di questo di questa puntata, non è di sicuro la storia di questa di questo titolo che ha attirato così tanto la mia attenzione. Ma è quello che dicevo all'inizio, è il suo stile. Non so veramente in che altro termine utilizzare in questo momento, perché l'autore del gioco, Hideki, autore, diciamo, il director del gioco, Hideki Kamiya, che ha creato anche Devil May Cry, altro titolo che si ricollega appunto a questo concetto e che è il secondo nella nostra lista, come diceva Jacopo, ha un suo modo di creare personaggi e raccontare una storia con un certo tipo di stile. Uno stile che, di nuovo, oh, per quanto purtroppo esce sempre così, sarò È molto giapponese, di nuovo, purtroppo devo usare di nuovo questa descrizione, perché non rispecchia proprio i canoni occidentali durante... Sì, durante i nostri canoni occidentali di azione, comicità e probabilmente anche sessualità, possiamo dire, in questo caso, perché direi che soprattutto in Bayonetta è una parte integrante dello stile, di nuovo, dei personaggi e del mondo di gioco. Da dove iniziamo però a parlare, Jacopo? Dammi una impappinando tra le mie... No, vabbè, in realtà c'è... partirei e finirei il discorso parlando del perché sono in questa lista, cioè perché hanno ispirato un po' questo episodio. Beh, forse bisogna anche premettere che noi possiamo parlarne un po' quest'oggi, possiamo raccontare i nostri punti di vista, però alla fin fine, essendo cose di stile, di grafica, di presentazione, ecco. Chiudete il podcast, andate a vedere. Anzi, mentre ascoltate il podcast, cercate su YouTube o su Google questi giochi e guardate un po' di immagini, un po' di filmati e... di cutscene, di gameplay. Sì, perché vanno visti, non si possono raccontare così. Ecco, se vogliamo cercare un parallelismo, forse i giochi di cui parliamo oggi possono essere un po' l'equivalente di quei film d'autore, no? I classici Kubrick, non mi sta venendo nessun altro ovviamente in questo momento, ma anche cose più semplici, nel senso solo di stili più rappresentativi, più visivi, no? Il classico Wes Anderson per far arrabbiare Salla, che comunque ha una fotografia molto personale, molto unica, che è per questo che ne riconosceresti un film di Wes Anderson tra mille, no? C'è a chi piace questa cosa, c'è a chi non piace come idea, ciao Salla, e stessa cosa qui, per questi giochi si sente molto lo stile dell'autore che ha messo del suo in ogni aspetto, dalle musiche alla grafica, al gameplay, eccetera, eccetera. E parlando di Bayonetta, si vede questo... questa storia raccontata in maniera così esponenziale, con quella classica, come dire, stile anime in cui è over 9000, si va sempre oltre il limite. Ogni cosa non è mai grande abbastanza, e quindi vediamo questa donna con una fortissima personalità che affronta nemici giganteschi, in tutto questo mentre indossa un vestito di pelle aderente, dire. Quindi cosa sto cercando di dire, Jacopo? Che ti piacciono i porni con vestiti aderenti. Ah, questo dobbiamo fare un altro episodio a parte se dobbiamo parlare delle... che apro su Pornhub, però... No, vabbè, per me questi titoli sono un po' la... come posso dire? Non l'apice, però un buon punto di partenza per parlare dell'esagerazione, no? Della qualità over the top di questi giochi che sono anime, che sono allo stesso tempo anche dei giochi un po' occidentali come gusto, no? come sensibilità. Sono dei giochi veramente veramente assurdi, estremi, ma anche pieni di non so come posso dire, di voglia di giocare, ma in senso non di gioco come, come videogioco, nel senso voglia di giocare proprio con i giocattoli, no? Come quando tu da piccolo prendi dei giocattoli e ti immagini delle evoluzioni incredibili che questi due in realtà, nella realtà, stai sbattendo due giocattoli insieme. e guardando, il bello è che guardando i retroscena di Devil May Cry 5 è esattamente quello che fanno nei nello sviluppare le cutscene di questi giochi, perché loro prendono questi pupazzi e li usano per coreografare le scene d'azione o si filmano da soli mentre fanno cose stupide. Cioè sono molto molto giocosi, molto molto, come posso dire, scansionati, molto, come posso dire, sdrammatizzano molto, però il motivo per cui sdrammatizzano è che in realtà spesso hanno un'estetica e dei temi abbastanza gotici, cioè un po', capito, sai, deprimenti, un pochino, non so, romantici, in senso romantico, come di... Perché, comunque, se togliessimo tutta la parte estrema, nel senso di che rende le cose così estreme quasi da portarle al ridicolo, no? Quasi da portarle all'assurdo. Sì, Die Hard proprio. Esattamente, se togliessimo quella parte e guardassimo solo i temi affrontati, ti verrebbe anche da dire che comunque sono alcune cose, almeno in certi momenti, abbastanza pesanti. Si parla di, forse può anche abusi, rapimenti, cose del genere. Quindi... Religioni. Il bello è che sono tutti personaggi, specialmente gli eroi, pieni di dubbi, pieni di... cioè sono eroi quasi romantici, un po' quasi anti-eroi anche in realtà. So specialmente anche dei May Cry 5 che c'è molto di conflitto fra i vari personaggi, diciamo, teoricamente buoni, teoricamente eroi, però cioè, è un po' una linea comune di questi giochi, non è mai facile capire le alleanze, le cose, e il design dei personaggi non è mai troppo angelico o troppo demonico o troppo, cioè è sicuramente un design di un personaggio a cui piace divertirsi, perché una delle cose principali che mi piace di Dante è che proprio è un design quasi da rockstar. Ma mettere che è una delle cose che la serie di Devil May Cry la conosco molto meno, quindi lascio parlare te. Io neanche la conosco poco, in realtà ho giocato solo a 4 in prima persona, cioè io personalmente. E Bayonetta non l'ho giocato, però Bayonetta ha un design che è uno di quei pochi personaggi che lo guardi e dici design un po', capito, maschilista, un po' sensuale, un po' diciamo, è molto decisamente è uno dei personaggi più apparentemente oggettificati, perché con questa, esatto, quella che sembra questa tuta di pelle attillata eccetera, però in realtà nel, come posso dire, nel modo in cui si muove, nel modo in cui interagisce con gli altri personaggi, così in realtà è un personaggio che ha letteralmente cioè reso un'arma, ha weaponizzato, cioè proprio come posso dire, sì, ha reso un'arma la sua cioè quanto è attraente la sessualità, e anche lì appunto è un personaggio completamente da capo ai piedi, completamente rockstar, cioè completamente larger than life, si dice, no? Cioè è un personaggio che è enorme dal punto di vista dell'influenza che ha sullo schermo, no? Quando inquadri quel personaggio dici cazzo, cioè è un personaggio di un'altra, quasi di un'altra realtà. Esatto, infatti farebbe quasi strano vedere Bayonetta e Dante che vanno in giro in mezzo a persone normali, cioè è una cosa che succederà veramente in quel gioco. Il design è stato fatto con proporzioni abbastanza non umane, probabilmente. Sì, sì, sì, cioè sono tutti personaggi che hanno proporzioni, cioè sia Bayonetta che Dante non, cioè, non esiste, non potrebbero esistere. Questa la sparo grossa, ricordano molto il design di alcuni nei fumetti classici di alcuni supereroi, no? Con quelle, sì, sì, cioè quei corpi assurdi che ti danno quell'idea di essere un misto tra un alieno e la tua greca, no? Sì, cioè quelle proporzioni, quei corpi fatti apposta per essere messi in posa, come capita spesso nei manga o negli anime, assolutamente, no? Per fare cose fighe con, durante i filmati e durante le combo su schermo. E se posso aggiungere, prima, quando hai tirato fuori Die Hard, altra classica, altra ricorrenza nel nostro podcast fratello, no? Nel nostro podcast parente, secondo me, cioè, è azzeccato, perché pensa anche lì, se ci pensi, se togliessimo, se guardassimo in maniera oggettiva, cioè se uno provasse a raccontarti la sinossi di Die Hard, è tipo un gruppo di terroristi prende in ostaggio delle persone e poi viene fermato da un poliziotto. Cioè, se te lo raccontassero così, tu ci pensi, sono temi pesanti che ti verrebbe da dire, non è un film per bambini e cose del genere. Allora, perché non è un... perché non è un film drammatico? Perché semplicemente l'autore è stato fatto appunto con questa idea di film d'azione americano, no? L'idea del cowboy solitario che da solo sgomina una banda di cattivi e ci sono esplosioni e combattimenti, eccetera. E il portare tutto questo all'assurdo sminuisce i temi che vengono affrontati sicuramente, però allo stesso tempo la rende un'esperienza unica, la rende una cosa interessante, la rende quel qualcosa che ti eccita, non in quel senso, però ti fa andare su di giri, no? Il classico, appunto, è un film d'azione. Penso che il concetto di base sia questo anche qui, cioè i personaggi sono creati in questa maniera così anime, permettimi il termine, da avere quella, da creare quell'energia, quell'emozione nei combattimenti, eccetera. Poi ovviamente di sicuro possiamo difenderli quanto vuoi, ma non è di sicuro non penso sia stato un femminista a fare il design, probabilmente, ma questo è un altro discorso. È un po' come il design di Quiet, no? Puoi giustificarlo quando ti pare, rimane una tizia in bikini. Il design di Bayonetta, secondo me, ha il problema che hanno cercato di giustificare il fatto che lei, più fa una combo lunga con tanti colpi, e più praticamente si sveste, no? Perché perde, cioè, quella che sembra una tuta di pelle, in realtà sono tipo piume, perché appunto lei I capelli, scusami. Cioè, lei è una strega, non ha la stessa anatomia di un umano, in nessun senso. E, per quanto tu dica, questa cosa può essere giustificata dalla lore, eccetera, è una cosa, cioè, schifosamente che la oggettifica, insomma, no? Sì. Però, appunto, come dicevo, la cosa che un po' la salva è l'atteggiamento stesso del personaggio ed è come interagisce con gli altri personaggi e come la telecamera in realtà sia concentrata più che sull'oggettificata, oggettificarla, sul glorificarla, che è leggermente diverso come concetto. Bella questa frase, mi piace molto. Vero, come? Nel senso che... Sì, allora, sarò banale, sarò il classico maschilista, cose del genere, e va bene. Il design è quello che è, il fatto di essere oggettificato è quello che è. Tuttavia, io ci tenevo anche a dire però che questo titolo qua, a parte la tutina di pelle di Bayonetta, non è stata tanto quello che l'ha messa come primo titolo tra gli esempi di questa puntata. Infatti, una delle cose di cui mi sono più innamorato del gioco, se andate a vedere, è il design delle creature angeliche. Io quello lì l'ho sempre trovato assolutamente geniale, tutte fatte con questa strana combinazione di statue e animali quasi di viscere. È un design che non ho mai visto da nessun'altra parte, quindi non è solo per il pure semplice vestito attillato dalla protagonista che metto il gioco come qualcosa che vale la pena, ma è tutto il mondo, tutto quello che c'è. No, certo, io volevo un attimo concentrarmi su Bayonetta, perché Bayonetta è un po' la parte centrale del gioco, la parte che più porta in tavola lo stile, no, tra virgolette, perché ha animazioni stupende, combo, cioè comunque è protagonista, quindi nella maggior parte dei filmati è anche quella che è al centro dell'azione, no? Mm-hmm. E quello che volevo dire un attimo appunto questo, cioè che nonostante appunto l'aspetto principale, cioè l'aspetto fisico, come posso dire, di primo impatto, comunque si redime per tutto quello che ho detto, insomma, dopo. Ma non ce ne frega un cazzo, fanculo i femministi, andiamo avanti. Solo un'ultima cosa da dire, perché ci tenevo a dirlo e volevo dirlo proprio in questa puntata che siamo già qui. Io, detto tutto questo, detto e non ammesso in questo podcast che dimenticandosi di tutte le pippe fattesi su Bayonetta e compagnia, infatti io sono rimasto sbigottito quando la Nintendo ha voluto fare Bayonetta per la Wii U, se non sbaglio. Se non sbaglio è uscito sulla Wii U Bayonetta 2. Nintendo, la compagnia più family friendly di tutto forse il mondo dei videogiochi, ha scelto Bayonetta, e ora Bayonetta è anche in Super Smash, cioè vedi che i giapponesi sono molto più aperti come sessualità. Non ci credo manco per... no, tutto visto che mi aveva veramente... Io l'avevo presa per una purla, per un cazzo di meme da qualche parte, quando l'ho letta la primissima volta, quando è uscita nel 2014. Non facevo crederci. Tutto qui. Quindi... Senti, Bayonetta è una gnocca pazzesca. Tutti vorrebbero finanziare il prossimo Bayonetta. Non stiamo qua... Quindi giochiamo, le musiche sono fighissime e basta, tutto lì. Quindi il design dei nemici è fantastico, i combattimenti sono over the top, abbiamo detto quel che c'era da dire. Allora, giusto, esatto, perché come dicevo io, questa è quella che ha fatto partire tutto quanto, no? Bayonetta è stato il seme, di nuovo, penso che i riferimenti sessuali si sprecheranno in questa puntata, ma è stato... l'idea alla base da cui è partita tutta questa puntata. E da lì mi sono chiesto, ma esistono altri giochi che hanno questo je ne sais quoi, appunto, in tutte le componenti del suo titolo, in ogni singola parte del videogioco? E come diceva Jacopo, ne abbiamo trovati qualcun altro, che probabilmente sono dei buoni esempi per questa categoria di videogiochi. Vado io, comincio io a elencarne altri. Allora, magari inizia tu, perché i primi due sono comunque... Okay. Anzi, i primi tre sono comunque anime. È vero, beh. Un'altra classe di titoli, un'altra saga di titoli, che ha fatto parlare molto di recente, che ha avuto un po' una riscoperta con l'ultimo titolo. Devo ammettere che anche questi non la conosco benissimo io, perché fanno parte di quei giochi in cui per finire il tutorial ci vogliono 20 ore e temo di non farcela più. Penso di essere, sempre per citare un altro film d'azione, sono troppo vecchio per queste cose. Non era così, sì, hai lo cambiato. Lo so, era una citazione ad Aomet. Stiamo parlando di Persona, nello specifico 5, Persona 5, che è stato quello che ho visto un po' di più in giro personalmente, e che anche lì mi ha colpito, perché mi ricordo di aver visto i cosplay che facevano il cosplay della grafica del menu di Persona 5, giusto per dire. Come, scusa? Giusto per dire quanto carisma c'è nel, anche solo nella presentazione letterale, nel, nella UI, nell'experience del, del gioco. Infatti ogni menu è curatissimo con personaggi che, sempre come dicevamo prima, si mettono in pose, sfondi neri su bianchi, silhouette di protagonisti, personaggi, nemici che creano queste piccole, sembrano quasi tavole di un manga ogni schermata del menu, e questo solo nei menu, quindi per dire anche quanta personalità si può trovare nei protagonisti. E di nuovo qua vado con i piedi di piombo nella storia, che di nuovo non conosco tutta perché 20 ore di tutorial no, ma che se ho visto bene dovrebbe essere anche abbastanza impegnata come argomenti. Si trattano temi di psicologia, di comunque abbastanza pesanti, traumi. Quindi perdonate l'ignoranza in questo caso. No, allora, diciamo che per chiudere velocemente il discorso, in realtà i temi sono un po' collegati allo stile, ma non troppo, perché si parla appunto di persona, cioè della personalità, dell'identità delle persone, quindi c'entrano temi come depressione, disforia di genere, sessualità, ci sono tantissimi temi diversi, ogni persona, scusate il termine, ogni personaggio rappresenta un po' un tema diverso spesso in queste saghe. Io non conosco bene la saga, ma questa parte mi è rimasta molto impressa perché dal gioco non sembrerebbe, però in realtà ci sono temi che sono molto scottanti, specialmente in Giappone, come l'omosessualità, come personaggi transessuali. Dicendo che la persona di queste persone personifica... sono personificate, esatto. Le persone di queste persone sono personificate. Personifica le esperienze personali, questo. Esatto. Però vabbè, il motivo per cui è qui non è tanto quello quanto lo stile, che è molto, molto prorompente, stilizzato, molto anime, però... È quello, mi sa che per quanto il scenario Treccani non sia contento con... non so quanto sia contento, temo che il termine migliore per descrivere questo stile sia proprio anime, quel voler dare idea di... sempre più grande, sempre più invincibile, sempre più potente, sempre più galattico. Penso che dovremmo usare quel termine parecchio, questa... Galattico. Non era galattico, cioè anime. Anime. Non galattico. Spesso per i prossimi, sì. Okay. Però vabbè, secondo me persona, ma soprattutto Persona 5, è quello più giusto dove usarlo, perché... Mm-hmm. L'estetica dei personaggi, di come sono fatti a livello di design, il linguaggio a livello di movimento, di animazioni, transizioni, cut, eccetera, è molto anime. Però è anime quasi all'ennesima potenza, è quasi futurista, cioè nel senso è tutto in movimento, è tutto come posso dire, un'ombra di movimenti. Ci sono dei tagli netti, ci sono delle animazioni chiare, però... è molto, molto, molto, molto estremo, molto movimentato. Ma infatti io ho scoperto la saga con Persona 5, perché prima non avevo la più pallida idea di che cosa fosse Persona, il che voleva dire che nonostante il seguito che avesse, era comunque una serie piuttosto di nicchia. Ma con Persona 5... Sì, diciamo che con Persona 4, ma soprattutto Persona 5, è arrivato un po' alla... Nella scena occidentale, no? Un po' come anche, vabbè, un altro titolo che diremo dopo, sono titoli che secondo me un po' devono superare lo scoglio della barriera culturale, ma soprattutto investitori che non vogliono spendere soldi in traduzioni. Quindi cioè, ci mettono un po' a arrivare lì. Il prossimo invece no. Perché il prossimo titolo che vogliamo citare non è non tratta di temi e non ha uno stile che è troppo lontano dalle nostre sensibilità, perché essenzialmente è come posso dire, figlio dei nostri tempi. Il prossimo titolo è figlio di una mente malata, però è figlio dei nostri tempi, no? Dillo tu dopo tutta questa introduzione, non so. Come, scusa? Dilla tu il titolo, non puoi dopo tutta questa introduzione. Non... No, volevo cercare conferma che ah. Perché io in realtà non lo conosco bene. Il titolo è No More Heroes. Ok. Lo sviluppatore è Suda 51, mi sembra. Mi confondo sempre perché mi vengono in mente Sun 41. Però sì, cioè, è la storia di questo, diciamo, Travis, che non so bene se è un cosplayer di supereroi con una lampada neon che pensa di salvare il mondo, o se effettivamente è un tizio con una spada laser che salva il mondo. Però cioè, è un po' una parodia dei come posso dire, dei supereroi, no? Cioè della cultura del supereroe, della cultura dell'uomo che salva il mondo, del prescelto, pieno di parodie della, come posso dire, cultura giapponese, ma anche della cultura occidentale dei supereroi. E il terzo capitolo, No More Heroes 3, non è ancora uscito, ma già lo amo. Io non ho mai giocato nessuno No More Heroes. Però... È sincero, nemmeno io, però un pochino mi sono forse un po' più informato di te. Alla fine non so quanto ne so più io di te, anche in questo caso. Però è quello, vedi? E il fatto di, nonostante né io né te li abbiamo mai giocati, sono titoli che hanno talmente tanta personalità che comunque sono arrivati da, ci hanno lasciato un impatto anche senza averli mai veramente toccati in mano. Trasudavano talmente tanto carisma che anche persone che non li hanno mai impressionati dalla loro presentazione, da come sono stati creati, da quello che mostravano. Per cui anche lì è un punto a loro favore, è un qualcosa che va, di cui va, bisogna tener conto anche in questo caso. Anche perché in realtà stavo pensando prima, avevo messo anche a volte interi cataloghi di alcune case di produzione, ed in realtà forse ci siamo dimenticati di mettere la Grasshopper Manufacture, che è la software house che ha sviluppato No More Heroes e molti altri titoli che direi hanno una loro casa. Non mi ricordo. Che hanno una loro personalità. Come? Ah, sì, decisamente sì. Ho visto che, infatti, riguardandoci adesso, programmato Contact, che era un gioco per DS, che tra l'altro l'ho giocato, solo che è uscito nel 2006, e io nel 2006 avevo 13 anni, 14 anni, giù di lì, non ci ho capito un cazzo, perché era un titolo stranissimo, già di suo doveva essere un RPG, un JRPG, stile giapponese, ma diverso dal solito, e lo era, perché sto cercando di ricordarmelo adesso e sinceramente faccio fatica a capire che cosa ho giocato quando ho giocato a Contact, per dirne uno, e altri giochi come Let It Die, che ha fatto un po' di scalpore, alla fine forse meno di quanto si meritava, sinceramente, qualche tempo fa, qualche anno fa, ha fatto Lollipop Chainsaw, perché chi altro poteva fare Lollipop Chainsaw? Non penso che fosse un progetto, cioè in nessun universo parallelo è sviluppato da qualcun altro. E altri titoli molto particolari che lasceremo a piacere di... Ma anche no, magari non fatelo se ci tenete la vostra. Non ci credo, ho scoperto adesso, hanno fatto Michigan. Ok. Va bene, ok. Dicevamo, nuova top house, nuova top 3 delle software house preferite. Andiamo avanti. Andiamo avanti, parliamo di un altro gioco che è molto anime, però ha dalla sua una struttura che è molto molto da videogioco, molto molto da videogioco post-moderno, se così si può dire, cioè... Non so come dirlo, però essenzialmente per me è... Quando dicevamo che non avevo idea di che cosa dire in questa puntata, non sapevamo nemmeno noi cosa dire. Visto, gentile pubblico, non vi abbiamo ingannati, molto... Esatto, non sappiamo cosa dire, cioè andatelo a vedere, non possiamo dirvi nulla, lo stile grafico è molto anime smorto, un insieme di design alla Gundam e Loli. È una follia di androidi e dei golem alla Studio Ghibli e delle zone post-apocalittiche e, cioè, è solo perché è un gioco che da un lato lo riconosco come molto smorto, molto deprimente come colori, ma dall'altro è molto strano, molto quasi... Allora, finora abbiamo citato dei giochi che sono molto esplosivi. Questo è un gioco più, secondo me, angosciante come rappresentazione, come stile. È comunque uno stile, secondo me. Però è decisamente uno stile, assolutamente. È molto, molto più spiacevole. Appositamente. È meno allegro, è quello, è meno... Sì, non è mai allegro, non è mai leggero. È più solenne, forse, userei come parola. Solenne no, però quasi. Quasi solenne. Ok, è difficile anche... Sobrio, come anno. No, sobrio no, non lo userei. No, effettivamente. Tutto tranne che sobrio, sinceramente. È decisamente non sobrio. Anche qui ci sono dei problemi, ma diciamo li copriremo da una... Come? Diciamo almeno il titolo, perché forse non l'abbiamo detto. Ah, l'abbiamo detto, Nier. Parliamo della saga di Nier, il cui autore è un'altra personalità che si può aggiungere all'elenco delle varie personalità che abbiamo citato questa sera. Questa sera, questo pomeriggio. E... Anche qua, questo titolo è già uscito in un'altra... Sono sicurissimo sia già uscito in un'altra puntata. Se non sbaglio è quella sui finali, perché nella puntata in cui parlavamo dei finali di un videogioco, abbiamo dovuto citare questo... in particolare il titolo di Nier Automata, in cui c'erano ben 26 finali, uno per ogni lettera dell'alfabeto, e... Penso che basti anche un po' fino forse questo a far capire l'eccentricità un po' di quest'autore, di questo titolo e del mondo di gioco in sé. Però sì, cioè, al di là della storia che è deflagrata, ricorda molto, molto Undertale, perché in realtà finisce ma non finisce, puoi rigiocarla 50 volte e ogni run è diverso. Vero. Però... Al di là di quello, lo stile è molto, molto particolare. Diciamo più del secondo che del primo, perché il primo ha un po' di problemi, non solo nel gameplay. Nier 1, che si chiama solo Nier, mi sa adesso si chiama Nier Replicant, perché l'hanno rifatto. Però Nier Automata, che è il 2, è stato molto più osannato per tante cose, specialmente la trama, però secondo me è anche visivamente interessante. Poi... Appunto, anche a questo non abbiamo giocato, quindi stiamo parlando così solo da fuori. Però la puntata è questo, no? Cioè, stiamo parlando solo dell'estetica, quindi sti cazzi. Sti cazzi, Oggi... Siamo ai difensivi oggi. Allora... Siamo un po' eccentrici, ci piace insultare i giocatori in questo caso. Ah, è vero. Siete belli e profumati. Andiamo adesso, secondo me... Pasqua, tra l'altro, perché registriamo anche. Ah, buona Pasqua, in ritardo di diverse settimane. Un paio, perché se siamo... Ci siamo dimenticati la scorsa volta. Comunque, Non è vero, era previsto questo. Vabbè. Ah, ok. I prossimi giochi ne sappiamo un po' di più. Quindi... Io ne ho giocati... diciamo 60%, perché alcuni... E la Madonna! Li ho iniziati, ma non li ho ancora finiti alcuni. Però questo era... Vabbè, come percentuale di più, dai. Sì, no, no, di sicuro. Questo era un caso in cui, ecco, abbiamo buttato tutti i titoli di una certa casa di... casa, una certa software house nell'elenco, perché hanno mantenuto uno stile non solo tra... non solo in certi... in certi videogiochi, ma in tutto il loro catalogo, anche se i giochi tra di loro non erano collegati, erano storie diverse, ambientazioni diverse, protagonisti diversi. Stiamo parlando in questo caso della Supergiant Games. Aspetta, Supergiant, perché mi viene sempre il dubbio tra Giant e Supergiant, ma dovrebbe essere Supergiant. Vabbè, non importa, potete cercare i titoli, sono Bastion, Transistor e Hades. E Supergiant, ho trollato, scusate, ma volevo essere sicuro di non dire una stronzata. Però se li cercate, specialmente... Esatto, in realtà c'è anche un quarto titolo che si chiama Pyre. Ah, Pyre, non lo conoscevo. In italiano, che effettivamente ha avuto... poco successo, tra virgolette, anche lì una cosa molto di nicchia. Perché... Vabbè, non ci interessa. In realtà, non lo so, io lo metterei comunque, lo citerei almeno, perché un po' come tutti gli altri titoli, presenta quello stile, per cui... Sì, sì, no, dico, non ci interessano i titoli singoli perché... Ah no, beh, ok, va bene. Condividono un po' la stessa... estetica, come dicevi tu prima, no? C'è questa specie di mix tra grafica 2D, grafica 3D, molto cartoon, però non è infantile, cioè è un cartone, è stilizzata, ma non è infantile, è comunque dettagliata, ma è di chiara lettura. Il genere comunque di solito è isometrico beat 'em up, cioè picchi le persone, picchi i nemici. Sì, no? Ma secondo me la cosa che rende un gioco di Supergiant, un gioco di Supergiant, cioè che lo rende così, così riconoscibile, è questo, come posso dire, questa unione tra il character design e il world design, cioè il design 2D del mondo e il design 3D dei personaggi, che è più difficile di quanto sembra azzeccare, e azzeccare così tanto. C'è un sacco di... è difficile da descrivere appunto per questo, la commissione fra i due mondi, insomma, dei vari giochi. Andate a vedere per capire di cosa sto parlando, cercate un'immagine, qualcosa, perché non riesco bene a descrivere adesso, in questo momento. Beh, in realtà, quando... io vorrei solo dire che quando Bastion, che è stato il titolo iniziale della casa, che è uscito nel 2011, come passa il tempo, e... lì, quando è uscito Bastion, era una cosa abbastanza unica nel suo genere e che adesso è diventata il loro stile, no? L'hanno fatto diventare lo stile proprio della casa di produzione. E un'altra particolarità dei loro giochi è questo narratore onnisciente che a volte rompe anche la quarta parete e parla al giocatore quasi, come se fosse un misto tra un libro, una favola, un stesso, che è rimasto abbastanza... è rimasto non dico uguale, ma coerente in tutti gli altri titoli, per esempio. Sì, non è esattamente lo stesso negli altri, questo è più Bastion. Vero, però se ci pensi c'è in Transistor la storia che viene raccontata dall'arma della protagonista lì, non voglio fare troppi spoiler, però sì, c'è comunque questa entità che racconta le avventure di Red, la protagonista. E in Hades c'è un narratore, lì lo devo finire un attimo il gioco prima, però c'è un narratore che racconta tutte le vicende del protagonista e che a volte appunto rompe la quarta parete o la prima parete, non lo so, perché ci sono, mi ricordo di scene in cui Hades, Zagreus, mi sembra si chiami Zagreus, il protagonista si accorge del narratore che sta contando quello che sta facendo e ci sono queste scene in cui si rompe la prima parete o si dice così. La seconda, la terza, non si sa. Una di quelle. Comunque, vabbè. Però sì, cioè, è uno stile che descriverlo non gli rende giustizia perché sono tanti i giochi che provano a replicarlo, sono tanti i giochi che lo interpreto in maniera diversa, magari con 8-bit o cose così, invece no, è molto chiara, cristallina, moderna, ma allo stesso tempo richiama come design la grafica vecchia degli isometrici. Gli isometrici, per chi non lo sapesse, sono quei giochi dove tu hai una visuale che è fissa, di solito, a leggermente dall'alto, mettiamola così, no? Tipo hai questa visione del mondo da 45 gradi, quindi non è come magari in Pokémon che è una specie di griglia dritta, orizzontale, verticale, ma hai due linee oblique, quindi vedi il mondo un po' da sghembo e leggermente dall'alto. Come? Bello sghembo. Mi piace. Sghembo, esatto, come la visuale isometrica del, come può essere in architettura, in disegno, insomma. Questo appunto secondo me semplifica anche quello che guardi, no? Quando guardi un'immagine, quando guardi un frame di quel gioco, è facile riconoscere i vari elementi e secondo me rende anche più facile a loro integrare il design del mondo con il design dei character. Comunque vabbè, ci sarebbe tantissimo da dire di quello che ha detto Marco, cioè della storia di questi giochi, anche della storia dello sviluppo di questi giochi, perché so che Hades ha avuto uno sviluppo infernale, letteralmente infernale, ma non ci interessa perché in questo episodio parliamo principalmente di estetica, quindi passiamo al prossimo gioco di cui volevamo parlarvi. Di questa casa in realtà c'è solo questo, che io sappia, di questo gioco, quindi non abbiamo altri da paragonare, anche perché questo gioco ci hanno messo 14 secoli a farlo. Il gioco è Cuphead, conosciuto nell'industria come il gioco indie in sviluppo da più anni della storia. Con un valido motivo, per un valido motivo aggiungerei. Ma c'è un valido motivo, no, non è uno sviluppo da così tanti anni, però... Cuphead, se non lo conoscete, cercatelo, immediatamente vi sarà chiaro perché in questo episodio è un gioco che si ispira ai cartoni anni 30 per la sua grafica ed è l'unico gioco nel mondo che è fatto come un cartone anni 30. Il motivo è che fare un cartone anni 30 è una rottura di coglioni incredibile. Perché ogni frame è fatto a mano, ci sono anche degli errori messi apposta, perché nei vecchi cartoni anni 30 c'erano degli errori, no? Alcuni frame dove un guanto di Topolino era giallo invece che essere bianco, dove magari un carattere veniva colorato male, quindi magari alcune zone erano nere invece che bianche, cioè veniva, come si dice, fillato male, tra virgolette. Ci sono errori che derivano dal fatto di dover essenzialmente filmare su pellicola dei disegni, quindi errori di allineamento, linee poco precise, degli sbavature sulla pellicola, anche gli sfondi sono ispirati a quei film anni 30, quindi hanno la parallasse finta, tra virgolette, come quella inventata da Walt Disney con la telecamera quella a multipiano, non mi ricordo come si chiama. E quindi, insomma, tutte queste cose insieme ti cosa risultano? In anni e anni di lavoro di tanti belli animatori che si sono rotti un po' il cazzo di guardare film anni 30. Quindi il risultato è fenomenale, cioè è davvero un gioco dove puoi quasi sentire la consistenza di quello che stai guardando, cioè è quasi come guardare un quadro e riuscire a immaginarti la sensazione di toccare quel quadro, per come è dipinto, no? Per le varie pennellate, per proprio la consistenza della pittura, e questo mi dà la stessa sensazione, non so se la dà anche a te, cioè che io so come, quasi come sarebbe toccarlo un disegno, no? Cioè è quasi tangibile, pur essendo completamente fuori da realtà, cioè non ha una consistenza che dici cavolo, questo è fatto di lana piuttosto che fatto di carta, no? Come può essere un Tearaway o un Yoshi o Kirby Woolly World, non lo so. Mm-hmm. No, di sicuro tutte quelle ore di lavoro si vedono nei disegni. I disegni sono fatti, hanno quella consistenza unica di quei cartoni anni 30 che sono riusciti a riprodurre assolutamente anche in questo titolo. È una cosa veramente assurda e, come dicevi tu, è stata pura follia farla. Quindi è quello che stiamo dicendo, stiamo facendo una grande ode alla follia di videogiochi che ogni tanto fa uscire questi strani e titoli unici nel loro genere, che sono delle piccole rivoluzioni, sono quei film d'autore che tirano fuori qualcosa di nuovo nel media che non si era mai visto prima e lasciano un segno, cioè. Sì, tra l'altro non è solamente un riprendere gli anni 30 e riportarli e avere la novità semplicemente perché hai riportato un'estetica vecchia. Hanno anche un po' riportato la parte nascosta degli anni 30, quindi la parte non buonista Disney, hanno riportato la parte più cattiva, più satirica, no? Cioè quei disegni alla Betty Boop, o comunque alla come si chiama quello? Non mi ricordo, Don Bluth forse, cioè disegni che sono molto più adulti, molto più satirici, caricature, e quasi, è quasi una parodia della Disney, che è una citazione, un tributo, diciamo, una critica. Tutti personaggi brutti, personaggi cattivi, no? Personaggi che a prima vista sembrano... Ah, oh, che carina la carota, e poi la carota ti picchia e ci perdi 4 ore della tua vita. Io ancora non ho avuto il coraggio di giocarlo, però so di gente che ci ha bestemmiato abbastanza. non abbiamo detto che gioco è in realtà, è una boss rush, con in mezzo, quindi hai tutti questi boss, fatti, cioè, stupendi, molto difficili, che devi battere, quindi in 2D hai delle sezioni, diciamo, più platform, con più nemici, eccetera, però le vere star del gioco sono questi boss, e lo stile di combattimento è una specie di misto fra un platform, un bullet hell, cioè più una specie di mi ricorda un po' Metal Gear, no, scusa, Metal Gear, ho detto una parola brutta, mi ricorda un po' più Metal Slug. Ok. O non so, altri bullet hell che adesso mi vengono in mente. Sì, era, se non sbaglio, il termine, quello che ho visto dire è run and gun. Run and gun, grazie. Esatto. Bravissimo. Che è appunto quel gioco in cui corri e spari con le pistole, per quanto nel caso qualcuno dovesse servire la spiegazione di questo, come dire, descrizione, no, questa categoria già autodescrittiva, ecco quello che dire. E questo è un altro titolo da aggiungere alla lista. Però vedi, qua iniziamo un po' a... E di qua partiva un pochino anche la discussione che facevamo la volta scorsa. Per esempio, sono d'accordo con te a mettere il gioco questo gioco qui. Però per un certo motivo, e non riesco a capire bene nemmeno io il perché, non mi dà esattamente... per quanto riguarda Cuphead, non lo so, mi sembra di sentirlo, non dico di non sentirlo, ma di sentirlo un po' meno rispetto agli altri titoli che abbiamo citato in precedenza, questa idea che stavo cercando di esprimere della personalità, dello stile. Ce l'ha, ma mi sfugge il perché, lo sento in maniera diversa. Sì, qui c'è stata una discussione di circa 2 ore. Che vi risparmiamo, gentile pubblico. Dove ci siamo insultati. No, non tanto per Cuphead, quanto per gli altri giochi che stiamo per presentarvi. Perché si parlava di Lucas Pope, quindi Papers, Please e The Return of the Obra Dinn. Se non avete giocati, andate a giocarli subito, immediatamente. Papers, Please non avete scuse perché è su ogni possibile piattaforma, cioè su PC, su iPad. Cioè, più che altro gira pure su PC di 40 anni fa, quindi fatelo. Obra Dinn è un pochino più pesante, nel senso che invece di 40 anni fa vi serve un PC di 15 anni fa, però giocatelo comunque. No, cioè... è qui che entra in gioco un po' la domanda di questo episodio, no? Cioè, quali sono i giochi che tu riconosceresti in mezzo a mille? E secondo me ogni persona ha un'esperienza diversa di vita, ha una sensibilità diversa, ha delle aspettative e ha dei gusti, no, diversi. Quindi per me personalmente Papers, Please e The Return of the Obra Dinn sono due giochi che hanno molto stile, li riconoscerei in mezzo a mille, e come posso dire, ne riconosco la varietà stilistica. Per te no, magari, cioè, per te non riconosci magari, non hai, come posso dire, quell'impatto immediato, non è quel collegamento immediato. Guarda, a dire vero, come ti dicevo all'inizio poco fa, Dal discorso che abbiamo fatto domenica scorsa, mi sono un po' ricreduto. Non lo so perché. Su Lucas Pope, però dicevo, il discorso che facciamo domenica scorsa era questo discorso di Cuphead alla fine. Lo facevamo su Lucas Pope. Però... Ah, ok, in quel senso. Sì, cioè, dico... Non sempre siamo d'accordo, cioè, è un po' paradossale, però... Guarda, ci possono essere tanti motivi. Vedi, non lo so, però che faccio fatica a mettere a parole in questo momento. Forse... Allora, dobbiamo tagliarla qui, secondo me. Okay. Non possiamo permetterci di perdere altri 50 minuti a parlarne. Quello che avevamo deciso alla fine è che dobbiamo accettare di non avere una risposta e dobbiamo accettare di non avere una domanda. Cioè, il problema di questa domanda è che non abbiamo neanche la domanda da farci, che magari non sappiamo dare una risposta, però che ci aiuta a mettere in chiaro quello di cui vogliamo parlare, perché appunto non riusciamo a mettere a parole quello che vogliamo dire, quello che proviamo. Per questo stavo cercando di dire, ogni persona ha un attaccamento diverso alle cose, ha un'esperienza diversa, ha una stessa persona può vedere la stessa identica cosa, cioè io potrei mostrare a mia madre, che so, una scena di Devil May Cry o una scena di Cuphead, di Hades, così, e direi, ah, figo, e poi se ne va. Cioè non è che non ha visto, ma non ha avuto un collegamento, non ha avuto, magari non ha il contesto, non ha l'interesse, non è un tipo di contenuto visivo che è interessante, cioè ci sono tanti motivi, no? Quindi a seconda della vita che avete vissuto, a seconda delle vostre sensibilità, potrebbero dirvi qualcosa, come potrebbero non dirvi qualcosa. Cioè io il prossimo titolo che ho messo in lista l'ho messo anche per questo motivo, cioè Little Nightmares, perché so che è un titolo che fa molto scalpore, che è molto famoso, che è molto amato, ma a me non dice nulla. Cioè, riconosco che ha del valore artistico, ma per me non ha stile. Lo ritengo derivativo, ma non saprei neanche dire del derivativo di cosa. Lo ritengo qualcosa che non mi ha stimolato nulla. L'ho anche giocato io il primo Little Nightmares. Non lo so. Io non ho avuto l'opportunità di giocarci, però devo ammettere che anch'io non so, almeno a vederlo così da istante non mi ha mai pressionato così tanto. Nella mia ignoranza mi è sempre sembrato qualcosa di molto preso da Limbo, per esempio, e che perlomeno cercasse di ricreare un po' quell'atmosfera di del bambino perduto. Sì, è vero. Riprende molto da Limbo e da Inside, che sono gli altri due titoli che abbiamo scritto dopo, tra l'altro. Esatto, e sul quale sarei, non so, un po' più d'accordo. Lo stile ce l'hanno. Di nuovo, Little Nightmares non ci ho giocato, e effettivamente soprattutto per giochi come questi, soprattutto su quelli in cui siamo un po' incerti, se non ci hai giocato, il tuo parere è un po' annullato in questo caso, perché di nuovo io argomentavo prima che alcuni titoli ce l'hanno anche giocato per via di forse titoli simili o che comunque avevo già visto, che comunque era quello, cioè anche senza giocarci ti davano qualcosa. Questo qua non posso dire che non ti dia niente senza averlo giocato, no? Non so se mi sto spiegando. Cioè, puoi dire che ti dà, può darti qualcosa senza averlo giocato, ma non puoi fare viceversa, perché a quel punto sei proprio, è proprio non voler dargli la possibilità. Quindi Little Nightmare, anch'io non l'avevo mai visto così, con così tanta passione, non l'avevo mai visto con così tanta interesse, e il fatto che tu adesso mi dici questo forse mi fa pensare che anche la mia opinione potrebbe non essere del tutto sbagliata a questo punto, se mi dici questa cosa qua. No, cioè, è giusto, non è sbagliata a priori. Vabbè, quello sì, ma nel senso non è così infondata, ecco quella la prova. Ok. Comunque io faccio, cioè, scusate. Scusa, giusto per dire una cosa su quello che avevi accennato prima, che hai cambiato subito gioco e non sono riuscito a intromettermi. Ah, in realtà volevo tornare indietro. Ok, no, era giusto per dire, sì, avevamo fatto questa discussione per 2 ore la settimana scorsa, di cui non vi riportiamo qui in intero per non portarvi al suicidio con questo podcast, e e non lo so, mi aveva fatto molto orribile come eravamo arrivati al punto che non c'era risposta perché non c'era domanda, giusto? Quindi, no? Era giusto per dire, sì. Cosa cacchio volevo dire? Era giusto per dire, pensate a quanto ci abbiamo pur pensato a sta roba qua. Esatto, per arrivare a questa... A quanto? Esatto, questa cosa di merda, questa affermazione. Quanto di tempo libero ci dà questa quarantena? Esatto. Fare... Comunque, scusate che mi sono dimenticato di dire gli stili grafici di Obra Dinn e di Paper Space. Forse se andate a vederli è meglio, però se non volete ve li descrivo. Paper Space è molto grafica stilizzata, quasi 8-bit, ma sovietica, molto... andate a vedere, è questa specie di ufficio, è questo ufficio alla dogana, al confine di questa nazione finta sovietica, dove tu devi controllare questi passaporti, questi documenti, e la grafica è molto semplice, ma anche molto stilizzata. Obra Dinn è comunque molto stilizzata, ma completamente diversa, perché è una grafica ispirata ai vecchi Mac, ai vecchi computer monocromatici, che praticamente è puntinista in verde e nero, invece che in bianco e nero, ed è però è in 3D, però è puntinista, però cioè, è molto molto interessante, andate a vedere. È pixelata vecchio stile, senza... è, in realtà è quel monocromatico, perché è solo bianco e nero, si chiama proprio grafica one bit graphic, o bianco. Però è verde e nero, ed è puntinista nel senso che comunque riesce a creare ombre, cioè nel senso, sì, è one bit effettivamente, però sì. Andate a vedere qualche immagine. No, lo stile di Deo Bradin è fantastico, io l'ho adorato, ho adorato il gioco, infatti i miei dubbi, non so perché, erano più su Paper Please, però lì potrebbe anche essere che non sono mai riuscito a finirlo, grave, non sono mai riuscito a mettermi lì di impegno, e effettivamente vabbè, ma non c'entra nulla, cioè queste sono impressioni che puoi avere anche guardando un'immagine, non è vero. Ci sta, dice... cioè è valida comunque come impressione che hai avuto. Quindi... invece Little Nightmares non saprei come descriverlo. Cioè perché è molto grottesco, è molto grottesco e molto alla Tim Burton come stile, diciamolo così. Un po', sembra un po' in stop motion, però non troppo. Tim Burton puntare, però allo stesso tempo, vedi, è quello, sembra tantissimo puntare su il grottesco, su l'horror, proprio quell'horror, cose tipo viscere, cose deformi, errori di quel genere. Però non so, a parte quello, a me non sembrava stesse cercando di dare molto altro. È quello lì, di nuovo, ripeto, non ci ho giocato, forse ci giocherò, non è proprio il mio genere come gioco, quindi vediamo se c'ho spazio nella lista. Ma andiamo avanti. Esatto, perché ridendo e scherzando, noi registrando qua sono già le 5, quindi forse conviene iniziare un po' a avvicinarci anche alla chiusura. Anche perché in realtà ci sono un po' di discorsi da fare sui prossimi giochi. Inside e Limbo sono un po' quelli che hanno ispirato in Little Nightmares, la devi pure a vedere, però Limbo è sempre come Little Nightmares, una specie di storia su questo bambino isolato, insomma, contro il mondo, contro gli orrori del mondo, però in bianco e nero, è stilizzata, è un po'... era molto originale quando è uscito, ha dei problemi, però molto riconoscibile a livello estetico. Stessa cosa per Inside, anche Inside ha dei problemi, ma se mi fai vedere un'immagine, nonostante i colori smorti, nonostante l'ambientazione molto realistica, il modo in cui è illuminato, il modo in cui i personaggi sono stati realizzati senza volto, la separazione che c'è fra le cose sullo sfondo e le cose davanti all'immagine, insomma, è facile da ripiazzare, insomma, mi piace molto. Però, diciamo, se dovessimo misurare questi giochi in base all'influenza che hanno avuto, il prossimo sarebbe il primo. Cioè, Goose Game è, penso, uno dei giochi più memati della storia. Ha fatto letteralmente rinascere i meme sulle papere, sulle oche. E ne abbiamo già parlato, ma andatevi a vedere magari qualche immagine per capire la grafica. Una grafica che sembra ispirata a... sapete quelle immagini nei pamphlet degli aerei che ti dicono come metterti, bravissimo, in caso di incidente? Bravissimo, ecco perché... tipo WikiHow, cioè quelle cose impersonali, quelle cose proprio... È ragionissimo, ecco, non mi stava venendo. Che secondo me è una grafica che può solo aumentare la comicità di quel gioco, la comicità idiota. Ecco, mi hai fatto tornare in mente... Hai presente quella scena in Fight Club dove... dove sostituiscono come si dice, le istruzioni in caso di in caso di guasto all'aereo, no? In caso di ammare del genere, come uno dei compiti di Tyler. Mi è venuto in mente quella lì, quella scena. Non so se hai presente. Non ce l'ho presentissima. Diciamo che in una di quelle cose per creare il caos in città, c'erano i membri del Fight Club che sostituivano i classici. Ok. Che ti dicevano mettete la mascherina, okay. La persona in panico e l'aereo che bruciava. E... Penso che l'immagine rappresenti alla perfezione Goose Game nella sua interezza. Il caos. Allora, per continuare, sempre per non metterci 5 ore su titoli che non se ne meritano. Ovviamente. In realtà se li meritano i prossimi 3, però magari faremo un episodio a parte su Double Fine, perché Tim Schafer ti voglio bene. Cedere, mi sa che... Sì, mio papà. Come? Sì, mi stavo dicendo appunto che mi sa che Tim Schafer sia... Tu sei il fanboy di Tim Schafer, un po' come... Esatto, dovrò portare il rant su Tim Schafer prima o poi. Esatto. Il double rant lo chiameremo. Comunque, Psychonauts, bellissimi, character design, bellissimo il mondo e tutto. È un gioco che non so che dirvi. Penso che sia o il primo o il mio secondo gioco preferito della storia. E se è il mio secondo gioco preferito, non so qual è il primo. Quindi... Non lo so, ne parlerò più in là, non posso. Brutal Legend, grafica eccezionale, non a livello di qualità, ma a livello di... Come stiamo dicendo in questo episodio, a livello di stile, perché si ispira a tutte le cover degli album E-Metal, Epic Metal, così, e li porta nella realtà. Ed è... Ecco, vedi, Brutal Legend... Scusa, non volevo interrompere, ma ci tengo giusto a dire. Brutal Legend è il mio esempio perfetto quando dico... In questo caso parliamo meno di meccaniche, perché in quanto a gioco in sé, devo ammetterlo, Brutal Legend a me non mi ha fatto così tanto impazzire. Però... Era la tua opinione, la rispetto. Sei una persona orribile, ma lo so. Ma per stile, ambientazione, personaggi, storie raccontate, il modo in cui la raccontavano, secondo me Brutal Legend è geniale. È assolutamente... È pazzesco. Tutto qui. Ci tenevo giusto a dire questo. No, ok, ci sta. Andate a vedere qualche fotogramma, specialmente del mondo. Poi ci sono anche dei cantanti proprio metal, tipo Ozzy, Lemmy, cioè artisti o cantanti, insomma, cioè musicisti o cantanti metal. Poi c'è, vabbè, il protagonista è Jack Black, quindi sapete che gioco è già. Poi c'è Grim Fandango invece, che è il gioco che secondo me ha aperto la porta a Coco o The Book of the Dead. Cioè, è stato uno dei primi, una delle prime storie che ha portato un po' alla luce in tutto il mondo il concetto di Dia de los Muertos o la cultura della morte messicana. Questo Dia de los Muertos, questa specie di giorno dei morti messicano che viene erroneamente considerato l'Halloween messicano, in realtà è un giorno di memoria, un giorno di... Cioè è molto collegato alla religione più che a una festa, no? Cioè, in Grim Fandango viene reso, secondo me, abbastanza bene. Non è corretto dal punto di vista culturale completamente, però visivamente anche come posso dire, come atmosfera è perfetto. Cioè è un gioco... Sì, magari non sarà corretto completamente dal punto di vista religioso. No, ma non deve esserlo. Ma la storia... Non viene un po' ridicolizzato per una semplice festa. Cioè comunque il significato rimane all'interno del videogioco. Diciamo che andate a vedere qualche immagine, perché sia i personaggi che sono questa specie di scheletri, ma molto, molto stilizzati, cioè molto... Sono gli scheletri rappresentati con lo stile quello sera appunto del, dio, del giorno dei, dei morti. Sì, però hanno anche una silhouette particolare, cioè sono molto... Okay. Cioè sembra molto un cartoon, no? Cioè sembra molto una cosa Pixar quasi, no? Cioè sono molto caricaturati, non sono tutti uguali, insomma. Ogni scheletro ha una sua... delle sue proporzioni che rappresentano un po' la personalità. Beh sì, caricatura è il termine perfetto. Sì, caricatura, non, esatto, non volevo dire non in senso negativo, insomma. Mm-hmm. Ed è, boh, è un piacere per gli occhi. Purtroppo è un'avventura grafica, quindi un po' ha sofferto l'età. Per fortuna hanno fatto una remastered che ha migliorato un po' i controlli e che dà un po' di indizi. Però vi giuro, cioè, se avete modo di guardarvi anche solamente un filmato di qualcun altro che ci gioca, è un'esperienza, cioè, sia visiva che dal punto di vista della colonna sonora e del doppiaggio, è incredibile. È una cosa. Ci sono alcuni momenti che mi vado veramente stupendi. Come? Ci sono alcuni momenti di scrittura veramente stupendi. Sono stupendi, ma diciamo che anche qui prende molto da altri film, altre opere. C'è un momento che è più bello del gioco, che è, diciamo, la metà centrale del gioco, che è ispirato a Casablanca, ed è fenomenale. Cioè, io ogni tanto vado a riascoltarmi gli attori che rileggono il copione di un parco. Cioè, ci sono tutti questi attori, con Tim Schafer che fa il narratore e Jack Black che fa alcuni personaggi secondari, i vecchi attori del gioco che rileggono il copione, i dialoghi, e sono su questo parco, in questa come si chiama? C'è questa specie di teatro, di parco, insomma, durante l'E3, che è una festa di videogiochi, dove sono riuniti per fare questa lettura insieme, e già solamente ascoltarli che leggono, che a un certo punto pure cantano una canzone, e ascoltare le musiche del compositore Peter Mac, cioè, vabbè, lasciamo perdere, mi sono perso troppo in Grim Fandango, ma forse se la meritava. A questo punto passiamo a due titoli che sono separati, ma li metterei insieme perché sono usciti più o meno nello stesso periodo. Mm-hmm. Che sono Journey e Unfinished Swan. Sai che ho avuto giusto l'occasione l'anno scorso di giocare a Journey per la prima volta? Non mi era mai capitato prima. E anche ci ho giocato recentemente, in realtà. E posso assolutamente capire perché è stato considerato questo capolavoro. In poche parole, perché lo è. Cioè, per farla molto molto semplice. La storia di Occam. Giustamente. No, capisco adesso quando dicevano che quando è uscito, perché non vorrei, 2006 può essere? Che mi viene 2006? Non c'è, assolutamente no, perché 2012... Può essere 2007 anche, non 2000, so, forse anche dopo. Mi dice 2012, per cui non lo so. Cosa? No, non è possibile. Giorni? No. Marzo 2012, perché ero convintissimo. Ma che cazzo dici? Niente, il tempo non ha più senso, signore. Qua prima di... Oh, vabbè, dai. Ok, 2012, che se ci pensi ancora sì, il periodo... Beh, è pieno periodo indie, no? È il classico... È quel periodo a cui si pensa quando si pensa alla rivoluzione indie che c'è stata nel mondo dei videogiochi. Iniziava nel 2010. E... Si capisce che cosa ha fatto in quel periodo, perché è un'esperienza che riesce a darti qualcosa, anche per chi non ha mai toccato un videogioco in vita sua. Posso immaginare che comunque un po' ti riesca a comunicare, anche perché un'idea geniale è stata eliminare completamente dialoghi, narrative, scritte, messaggi diretti, ecco, al giocatore. Esatto. Tutto per una narrativa più come dire, cioè visiva, puramente visiva, esatto, puramente visiva, ma anche completamente interpretativa. Non ci so, ci sono, c'è questa storia narrata attraverso murales, quasi come quelli che si possono trovare in vecchie rovine, in cui, dei mosaici, esattamente, in cui non sono, non è un film, non è una serie di fotografie, sono rappresentazioni molto stilizzate della storia di questo pianeta, o comunque zona, landa, e quindi non c'è una lettura unica in tutto questo, ma anzi, anche da interviste degli autori, è stata loro intenzione creare questa storia che potesse essere libera di essere interpretata. Ed è una delle storie più classiche dell'umanità, probabilmente, un pellegrinaggio per raggiungere un journey, guarda caso, un viaggio. Una mente. Mi stai dicendo che il titolo potrebbe centrare qualcosa? Incredibile. È questo viaggio silenzioso, ma che può essere affrontato in compagnia, tecnicamente, con una modalità multiplayer che non penso sia mai stata fatta né prima né quasi dopo a questo punto, perché sto cercando di pensare a titoli che più o meno sfruttino qualcosa del genere, e l'unica cosa che è Dark Souls, sinceramente. E basta. Eravamo quasi riusciti a non citarlo quasi. Un multiplayer non ragionato, ma come dire, casuale quasi, dove i giocatori venivano connessi tra di loro senza possibilità di parlare, ma comunque con una possibilità di interagire e di aiutare. Sì, potevi fare tipo dei segni, no? Potevi. Esatto. Però vabbè, a livello visivo, se guardate delle foto del gioco, degli screenshot, noterete che questi, cioè, è abbastanza raro vedere un altro giocatore, cioè i posti, cioè le situazioni sono abbastanza desolate, cioè tutto molto desertico, no? Vero. Cioè molto vuoto. Penso sia molto voluto che volessero dare questa di solitudine, di appunto essere quasi persi un po' in questo viaggio, no? E soprattutto, soprattutto è stato l'unico gioco in cui, forse non l'unico, ma di sicuro uno dei pochissimi giochi in cui la fotografia mi ha fatto veramente impressione, per quanto l'hanno fatta bene. Ci sono momenti in cui la telecamera viene spostata per creare paesaggi, delle inquadrature di questa montagna che stai cercando di raggiungere, e te piccolissimo, ancora così lontano, che sono veramente fantastici, meravigliosi. No, vabbè, quella scena dove stai scendendo lungo la duna, no? Cioè sulla sabbia. Quella dello scivolo, esattamente a quella a cui pensavo. Lo scivolo. E c'è la luce del sole che si riflette come uno specchio sulla sabbia. Io lì sono, cioè, mi ha commosso semplicemente la bellezza di quell'immagine, di quella scena. E un po', secondo me, è quello che dicevi tu del fatto di non avere una voce narrante, di non avere niente di plot, cioè di esposizione, così, che ti costringeva a concentrarti sul mondo circostante, diventava quasi un esercizio di meditazione, che è una cosa che, diciamo, negli altri giochi che abbiamo detto finora non c'è molto. Però in realtà anche un gioco come Ghost of Tsushima in realtà nasconde un po' quest'anima, no, di meditazione, no, di bellezza nel mondo, di bellezza nel mondo circostante, che porta un po', che nasce un po' dal silenzio, no? Dall'assenza di distrazioni. I giorni è un po' è l'esempio, secondo me, più calzante di questo. E, secondo me, anche Monument Valley potremmo mettere in questo tipo di bellezza, che è un gioco che volevo citare perché non abbiamo mai citato un gioco mobile che mi sentivo in colpa. Andatevelo a vedere. Però l'altro gioco che dicevo prima, Unfinished Swan, l'ho messo insieme a Giorni non perché sia la stessa categoria estetica, ma perché è uscito un po' ravvicinato da quello che ricordo. Ed è, sono stati un po' i due giochi che hanno portato alla ribalta, alla ribalza, non so come dirlo, cioè gli indie di PlayStation, perché ebbene sì, esisteva un tempo in cui gli indie PlayStation non erano considerati di qualità. Perché il Live Arcade, come si chiama prima su Xbox, era molto più curato, aveva molto più budget, quindi è sul Live Arcade che sono nati un po' gli indie, con Braid, con Super Meat Boy, eccetera. Però appunto con Journey e con Infinite Swan PlayStation ha cominciato sempre più a spingere anche in quel senso. Infinite Swan è Unfinished Swan, cioè un cigno non completato, che anche questo ho giocato molto poco tempo fa, tipo quest'anno ho giocato su PC, ed è un gioco che è strano perché il mondo non esiste, ci sono pochi elementi visibili fin da subito e sei tu che lo sporchi con un colore rendendolo visibile, no? Quindi tu tiri una palla di vernice nera come su una tela, il mondo si macchia e dove si macchia lo vedi perché c'è una macchia. Molto carino, non è niente di speciale, insomma, molto corto, molto, cioè a livello di storia, di gameplay fa, cioè non è niente di che, però a livello visivo mi ha, non so, anche questo mi ha colpito abbastanza, non so per quale motivo. Beh, quella purtroppo è un altro, aggiungere alla lunga lista di quelli che non ho giocato, ma che ho visto un po' quando ero uscito. Devo ammettere che non sapevo avesse fatto così tanto scalpore quanto Giorni, mi ricordo che quando è uscito lo trovavo ovunque, c'era video su... Sì, non come Giorni, però insieme. Sì, no, ma infatti, ma adesso col senno di poi riguardarlo indietro, anch'io penso sia stato un po' sottovalutato, forse. Era comunque qualcosa che nessuno aveva mai provato a fare prima, cercato di creare questa narrativa, perché se non sbaglio poi il protagonista dovrebbe essere, era la storia che era un pittore, no? Per questo c'era, se l'hai accennato te poco fa, purtroppo non ti ho sentito, che raccontavi di come si doveva sporcare il mondo per trovare la via, e la storia era che era un pittore, se non ricordo male, e la madre era pittrice, lui si era facciamo pure spoiler, mi sembra si fosse perso in uno dei suoi quadri, se non male. Può essere? Non proprio, ma proprio, cioè, ripeto, la storia non è importante, cioè, è un po' una cagata. Ok, però sì, cioè, è comunque stato un metodo innovativo di raccontare qualcosa, quindi come dicevo prima forse è stato più ignorato di quanto non si meritasse, probabilmente, forse sì, un po' all'ombra di Giorni. Mentre Monument Valley, che stavo iniziando a fare poco, lì non lo so, lì l'ho giocato, mi è piaciuto davvero molto come gameplay, come meccaniche, come stile di grafica, però temo che sia un altro di quei titoli in cui forse non siamo così d'accordo. A me, io non ho sentito, o perlomeno non mi ha toccato particolarmente quello, ma forse sono io, forse... Dove ti è toccato Monument Valley, Marco? Te lo faccio vedere sulla bambolina. Questa bambola. E... no, non lo so, mi è piaciuto molto come gameplay, come, tra virgolette, storia, perché mi sembra ci fosse una storia, anche lì devo ammettere che non me lo ricordo tantissimo, però non ci ho sentito lo stesso stile che ho sentito in altri titoli che abbiamo citato in questa puntata. Okay. Tutto lì. Non ho molto altro da aggiungere, a dire il vero, su Monument Valley. In realtà, no, è vero, perché non saprei neanche come descriverlo. Cioè, andatevi a cercare uno screenshot, perché ci metterei 40 minuti solamente a cercare di scriverlo. Ma continuiamo con due titoli dove io e Marco forse siamo d'accordo. Fammi vedere l'elenco. Direi di sì. Con Ori... Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, che chiameremo Ori 1 e Ori 2. Io non so se l'ho già detto su questo podcast, ma penso di ripetere una volta al giorno. Per me Ori and the Will of the Wisps, o chiamato Ori 2, è uno dei giochi migliori della storia, è praticamente perfetto, è, per me personalmente è il Metroidvania che più ho amato a giocare dall'inizio alla fine. E non mi vergogno a dirlo, pur avendo giocato Symphony of the Night e vabbè, altri giochi Metroidvania bellissimi. Per me è boh, cioè io ancora non ho giocato Hollow Knight, quindi magari mi mangerò queste parole, però è perfetto in ogni cosa, cioè ha un sistema di combattimento, vabbè, ok, non dobbiamo parlare di quello, però volevo dare un contesto a quello che sto per dire. Per me Ori 1 e 2 non hanno molto stile. Cioè, ok. E lo dico, cioè, pur avendo dietro di me questo amore, no, per entrambi, soprattutto per il 2, cioè, è, per carità, sono bellissimi, sono tra i giochi più belli che ho mai visto, e è quella grafica che 10 anni fa o 15 anni fa avrebbe fatto scoppiare il cervello a un bambino. Cioè, cazzo, sto giocando dentro a un cartone. Non un cartone come Cuphead, cioè proprio un film animato, cioè pieno di dettagli, pieno di vita, pieno di movimenti, pieno di personaggi, di situazioni, di colori strani, cioè di controllo e gestione della luce nella scena. È bellissimo da guardare, eppure gli manca quel qualcosa che dici cazzo, cioè non lo so. Non si sa. Non lo sappiamo. Non so, tu eri d'accordo, mi sembra di aver capito la scorsa volta. Io penso di essere d'accordo da quello che ho visto di Ori, soprattutto del primo. Direi che anche non avendoci giocato si sente questo je ne sais quoi, questo sempre quel qualcosina in più, e mi sembra di aver percepito un po' anche dall'opinione pubblica e generale, così che nel secondo si sente un po' meno. Però di nuovo è un altro di quei titoli che ti dico, appena ci avrò giocato piuttosto penso che il secondo che stavamo per citare, aspetta, tu hai contato i due titoli come Ori 1 e 2 o Ori e quello dopo? No, Ori 1 e 2. Ah, okay. Poi, okay, allora. Adesso il prossimo titolo invece penso sia innegabile che ha un'anima e che ha cambiato per sempre la storia dei videogiochi, almeno degli indie. Decisamente, beh, su questo non ho veramente nulla da ridire, fatto che abbia quello stile di cui stiamo parlando. Parliamo infatti di Undertale, gioco sviluppato da singolo developer di Toby Fox, e che quando è uscito qualche anno fa, qua di nuovo spero di non sbagliare, mi sembra 2017, dimmi che ci ho preso stavolta, e niente, 2015, niente, il tempo è veramente tiranno con questo caso. Quando è uscito nel 2015 ha avuto un successo straordinario, e ha ragione secondo me, perché è un altro perfetto esempio di quando un autore sa cosa sta facendo con i suoi personaggi, sa dargli una personalità a questi personaggi, e sa, come dire, qual è il ruolo di ogni attore nella storia. E oltre a questo sa anche come come far innamorare il giocatore con cui sta giocando. Non c'è veramente altro da dire, non può descriverlo. Beh, in altra maniera. Però a livello anche visivo, no? È coerente. Sì, anche lì è strano perché è un altro di quelle cose che non ti aspetteresti, perché è una grafica pixelata, una pixel graphic di giochi da NES o da Super NES, che è al massimo, eppure nonostante quei pochi pixel riesce a dare tante emozioni. Scusa, questa non ho potuto trattenermi, no? Non è quanti pixel hai, è come li usi. Esattamente. Sì, nonostante quelle grafiche molto semplici, anche perché, di nuovo, ricordiamo, le ha fatte praticamente tutte lui da solo, e soprattutto con le musiche che ha composto lui da solo, è riuscito comunque a raccontare questa storia veramente molto toccante di tradimenti e, come dire, preconcetti, cui personaggi scoprono qualcosa di nuovo riguardo intere civiltà o a persone che non avrebbero mai pensato prima. Quindi che altro dire? Questo è veramente uno di quelli in cui si sente lo stile di cui stavamo parlando prima. Sì, appunto, magari anche questo è un gioco difficile da vederci lo stile, nel senso che serve un po' di connessione con il tipo di grafica o con il gioco, perché altrimenti è difficile magari... Dici un po' di nostalgia magari per quello stile grafico, forse? Non solo nostalgia, ma almeno conoscenza, perché non è facile, secondo me, connettere come magari connettere con un... Cioè, è più facile, secondo me, che una persona guardi un trailer di... Che cazzo ne so, di Journey, e se ne innamori, piuttosto che Undertale, no? Di avere una connessione emotiva o una conoscenza. Ok. Come devi guardare un documentario su Macmillan per avere una connessione con la grafica di Binding of Isaac e Super Meat Boy, che sono quelli che volevo un po' tenere come chiusura prima della conclusione dell'episodio, perché so che sei molto molto legato, insomma. Binding of Isaac è un gioco preferito in assoluto, uno tra i giochi preferiti in assoluto. Super Meat Boy ci ho giocato e mi ha divertito, mi è piaciuto, personaggi interessanti, una storia divertente, molto quello stile molto infantile, ma proprio da quasi stupido infantile, che però funziona. Però non lo so, perché se da una parte il gioco in sé mi fa veramente impazzire, quello di Isaac, penso che parlerò principalmente di quello, mi fa veramente impazzire, secondo me è uno dei roguelike meglio riusciti in assoluto nella storia. Da un'altra parte, credo che se parliamo di stile, penso si senta soprattutto nella prima versione del gioco, la primissima versione del gioco, ovvero quella uscita per Flash con l'espansione Wrath of the Lamb, l'ira dell'agnello, sarebbe sempre per via di citazioni bibliche da parte di Macmillan, in cui c'è questa questi sono queste tematiche di religione, abusi affettivi di questo ragazzino Isaac in questa casa con questa madre iperreligiosa, che, come dire, non sto a spoilerare, ma c'è una storia dietro che va a scoprire abbastanza brutta anche qua, le tematiche sempre molto allegre che vengono nascoste da un filo di umorismo, no? un velo di umorismo. E secondo me in quei giochi si poteva assolutamente parlare di stile, c'era questo qualcosa che Macmillan voleva raccontare della sua infanzia, di come aveva vissuto certe cose, che trapelava un po' in tut- tutto in ogni aspetto del gioco, ed era di sicuro un qualcosa in più che gli dava. Poi il gioco si è evoluto, si è espanso tramite aggiungendo appunto idee originali di Macmillan, ma soprattutto varie aggiunte di mod create dai giocatori che si erano talmente appassionati a questo gioco da creare tantissimo altro contenuto. E per quanto la storia sia rimasta, che i protagonisti siano ancora gli stessi, a me ha dato l'impressione che un pochino questa coerenza, questo stile, chiamiamolo sempre così, si sia un po' diluito, si sia diluito forse un po' troppo. Quindi devo ammettere che è uno dei titoli su cui sono più incerto se effettivamente ci stava o no in questa puntata. E beh, non so che altro aggiungere, se non che penso sia, come dicevo, uno dei migliori video in assoluto, probabilmente. Tra l'altro è un lavoro che va avanti da quasi 10 anni, credo che è sempre il primo Binding of Isaac, adesso controllo, ma di nuovo intorno al 2010 uscito, vediamo, 2011, quindi primissimo, anche qua sono 11 anni che lavora al gioco. E l'evoluzione ha creato questo gameplay che io considero quasi perfetto, dopo che avranno appunto finito di bilanciare un attimo l'ultima espansione, ma qualcosina forse si è perso nello stile. Oddio, non me l'aspettavo. O almeno questa è stata la mia sensazione, di nuovo, chi cazzo sono io? Questo è quello che è sembrato a me, però è anche vero che... No, vabbè, cazzo, però, cioè, tu non sei l'ultimo studiato, più o meno. Però, comunque, però forse, cioè... questa, dico solo un'ultima cosa, poi ti lascio parlare. Dicevo, è anche vero che io sono arrivato un po' tardi, con Binding of Isaac, che io credo di aver iniziato a giocarci qualche anno fa, sarà stato 2016, quindi già parecchie espansioni, già così. Quindi queste sono le sensazioni che mi sono arrivate già dopo un po' di tempo che era stato già parecchio elaborato, e quindi magari è stato quello che mi ha fatto toccare prima il prodotto già un po' edulcorato da tutto quanto, in cui uno che magari arrivava da... è un po' come chi inizia a giocare a World of Warcraft adesso, dopo che sono uscite 27 espansioni, non 27, però 5-6 espansioni, e non sa nulla della lore, non sa tutto quello che c'è dietro, e trova divertente il gioco, ma come dire, forse lo riesce ad apprezzare comunque un po' meno rispetto a uno che è partito dall'inizio e si è ogni espansione di uscita negli ultimi 15 anni. E lì sono arrivato che era già stato, mi sembrava già un po' edulcorato, magari per chi l'aveva seguito non era così, magari ha un'opinione diversa dalla mia perché ha visto più l'evoluzione. Però questo è quello che ho provato io quando ho scoperto tutta la sua storia, tutto il suo sviluppo. Ho finito. Vai pure, Jacopo. No, niente. Volevo dire, cioè, che il fatto che tu non senti più questo stile non è niente. Cioè, comunque ci sta, certo. Sì. Di Super Meat Boy devo dire invece, anche lì ho scoperto in seguito che ci sono state parecchie iterazioni, perché adesso mi sembra ci sia la come si dice, la versione finale che dovrebbe essere Super Meat Boy Forever, se non ricordo male, che anche lì c'è stato un remake della grafica, principalmente della grafica. Macmillan lavora tantissimo alla grafica, infatti anche quest'ultima espansione di Isaac ha praticamente rifatto quasi tutta la grafica del gioco originale, perché lui è artista di origine, lascia programmare i giochi a qualcun altro. E quindi sì, cioè, lì però penso che non ci si... E so che ci sono state aggiunte, ma mai del livello di Isaac, quindi credo sinceramente che quell'idea di gioco molto stupido, inteso quella stupidità, no, bambinesca, dei bambini che si divertono, come fare esempio, a toccare le cacche con un bastone, oppure a, no, quella classica immagine del bambino a cui piacciono le cose un po' schifose, quando, oppure grezze, un po', come si dice, un po' malformate, no? Quelle strane. E penso che si possa descrivere così lo stile di Super Meat Boy. Infatti Meat Boy è una persona, no, è un protagonista fatto di carne macinata, bene, come se nasce così. Non si sa bene. La sua principessa, in questo caso, prendendo come esempio l'altro mitico platformer di Super Mario, è una palla di cerotti usati, e il cattivo è un feto sottovuoto, quindi si può capire che... Molto normale. E mi ricordo che uno dei boss di fine livello era una cacca gigante animata dal feto cattivo, quindi cosa sto dicendo? A sentirlo dire in questo modo è sempre quella cosa, quando la gente sente parlare dei giochi di Macmillan, sono sempre cose molto strane. Lì, sinceramente, meno esperto, ma credo che la coerenza stilistica e narrativa si sia mantenuta molto di più rispetto che con Isaac. Penso di aver detto tutto quello che avevo da dire riguardo Milan, che anche qua in realtà si potrebbe parlare di stile di casa di produzione o comunque di autore, perché Macmillan ne ha fatti un sacco di giochi piccoli ma che raccontavano comunque qualcosina, e di sicuro quelli che sono rimasti originali, tra virgolette, che non si sono espansi troppo con le mod create dai giocatori, di sicuro avevano qualcosa da raccontare, ce l'hanno ancora, e molti di loro hanno un loro stile, chi più chi meno. Quindi Macmillan lo metterei di sicuro in questo elenco. Forse Binding of Isaac ci sta un po' meno, ma di nuovo, parere personale. Ok, non me l'aspettavo, però va bene. Ma stiamo parlando di stili. E quando si parla di stile, non si può. Mi metto a... Voi non lo vedete, ascoltatori, ma in questo momento sto roteando dei revolver tra le mani. You're pretty cool. Parlando di stile, appunto, siamo arrivati al momento che tutti stavano aspettando. Sigla? Beh, di Kojima. direi che no, com'era quel meme? A me non piacciono, un po' travisato in questo caso, ma a me non piacciono i giochi con stile, quindi gioco a Metal Gear, che è una saga semplicemente uno sparatutto di infiltrazione, giusto? Esatto, no, era una battuta di Ron Swanson. Sì, no. A me non piacciono le sottotrame difficili, è per quello che mi piace Metal Gear, è la storia di un uomo che odia i robot. Esatto. Volevo travisare per renderlo più coerente alla puntata, però però sì. No, però non è un caso, esatto. Non è un caso che i titoli che hanno ispirato questa puntata e molti di quelli che sono stati poi citati come aggiunte all'ispirazione siano di origine giapponese. Molti autori giapponesi hanno questa mania di grandezza, un pochino forse, di creare queste opere che con questo mettere il loro stile un po' ovunque, no? Dicevamo, creare queste personalità, questi personaggi, che più che personaggi sono personalità, all'interno dei loro giochi. Abbiamo parlato di Bayonetta, abbiamo parlato di Devil May Cry, Persona, Nier, eccetera. Kojima non è da meno, direi. ogni personaggio che abbia un minimo di rilevanza, e forse a questo punto pensandoci, forse anche se ci pensi, anche i soldati anonimi che le pedine, i cannon fodder, non mi sta venendo il termine, che incontri durante le missioni, quelli letteralmente che hanno il volto coperto, che non hai idea di chi siano, che non sono minimamente importanti per la trama, oppure che recluti durante le varie missioni nel 5, anche loro hanno un minimo di personalità. Cioè, è riuscito a creare questo universo narrativo in cui ogni personaggio principale ha un suo ruolo, ma anche tutti i personaggi secondari hanno un minimo di carattere, hanno un minimo di carisma. Se pensiamo anche solo alla gag ricorrente dal primissimo Metal Gear fino al 4, non mi ricordo qual era la citazione nel 5, devo ammettere. Ho un vuoto. Quindi sì, volevate dello stile, volevate le cose in grande, vi piacciono le cose in grande? Probabilmente Metal Gear ha qualcosa per voi in questo caso. Tu che ne dici, Jacopo? Dico solo Revengeance. Invece di Repentance. No, vabbè, non so veramente che dire. Metal Gear è una saga che è piena di questi momenti alla Bayonetta, da Devil May Cry, dove i personaggi fanno evoluzioni, mosse assurde. È solo perché è allo stesso tempo una delle saghe con l'impatto visivo più realistico, cioè più curato per molti dei capitoli. Cioè, mi ricordo guardare il muro un muro di Metal Gear Solid 5 o V, cioè sembrava un muro vero, nel senso, come c'erano le imperfezioni nella pittura, come la luce rimbalzava su quelle imperfezioni. Cioè, sono titoli molto curati e molto in alcune situazioni quasi fotorealistici, ma allo stesso tempo surreali, completamente fuori dai coppi. E, appunto, cioè, è quasi difficile da inquadrare per questo motivo, perché molto del suo stile lo prendono dalle animazioni, molto del loro stile, insomma. Da come i personaggi si muovono, e da quello che dicono. Però anche visivamente a volte, appunto, viene fuori l'anima degli storyboard e degli sketch di Yoji Shinkawa, che tra l'altro ormai fa quel cazzo che gli pare. Lui annuncia giochi prima che gli annunci Kojima, cioè un po' vive di vita sua Yoji Shinkawa, e niente, secondo me è il momento di cambiare, perché abbiamo detto talmente tanta roba su Kojima che ogni volta facciamo fatica a raschiare il barile. È vero. Forse una cosa che potremmo aggiungere qua. Personaggi forse nel loro ruolo nella storia e del loro significato metaforico, vari genere. Però forse qua c'è più da far notare come molto spesso queste loro caratteristiche vengano mostrate anche in aspetti che uno, quando li vede, dice ok, ovvio, però che da un punto di vista creativo, una persona che deve scriverle queste cose, un po' di... come si dice, un minimo di applausi gli si fanno, perché ad esempio anche vedere i Revolver Ocelot che si, sempre citando quello che dicevo prima, si evolve da ragazzo sbruffone che si fa bello della sua abilità con le pistole a, a un vecchio che, come dire, ha perso quasi questa abitudine di giocare, comunque un cambio di personalità che si vede in ogni aspetto, anche in, queste, in questa cosa del giocare con le sue armi, che uno non aspetterebbe, cioè che uno dice ci sta, è perfetto, ci sta benissimo, però qualcuno deve averla pensata, questa cosa deve averla scritta, e quindi, non so, un mio piccolo, anche qua, grazie Kojima per questi dettagli, no? Queste attenzioni ai particolari. E poi di come, anche quando l'attenzione dell'osservatore si sposta dai singoli personaggi, dai singoli momenti nella storia, e magari viene inquadrato di più il mondo, l'ambientazione, tutto il resto, comunque ancora non si trova quasi praticamente mai qualcosa di fuori posto, cioè sono tutte le ambientazioni, le conseguenze delle azioni dei personaggi, il palcoscenico per questa tragedia commedia è stato fatto in maniera eccelsa anche quello, quindi non so, lo stile si mantiene anche al di fuori delle battute, al di fuori dei vari ruoli. Invece di Death Stranding, tu cosa aggiungeresti qualcosa? Che non lo so. No, ma Death Stranding alla fine è un simulatore di camminata. È vero. Non ha nulla di stile. No, vabbè. Death Stranding è, secondo me, forse il suo gioco più visivamente stimolante. Anche se può sembrare quello meno dinamico, meno appunto, è quello più noioso, diciamo. È quello che mi ha dato più una reazione, semplicemente l'esperienza visiva, l'esperienza audiovisiva. Mm-hmm. Un po' per me, cioè per chi sono io, un po' per proprio come è fatta l'ambientazione, come la musica accentua dei momenti particolari. E anche per la qualità, secondo me, altissima della recitazione, cioè anche della motion capture proprio, forse è quello che è riuscito meglio dal punto di vista visivo. Come stile, sì, ha anche lì un linguaggio abbastanza suo, abbastanza particolare, però lo vedo più, cioè il design lo vedo più in Metal Gear. Il linguaggio di design e l'entità particolare che in Death Stranding. Ci sono molti meno elementi riconoscibili in Death Stranding, diciamo. Infatti io avrei una piccola critica in questo caso. Sono assolutamente d'accordo. Lo stile visivo dei paesaggi, delle musiche, come si accompagnano, la camminata di Sam e tutto. Nulla da ridire su quello. Secondo me, in questo titolo qua, forse ha voluto tirare un po' troppo la corda, nel senso che a volte ha esagerato, no, quell'esagerazione che prima, ha esagerato un po' troppo in alcuni casi, soprattutto per cose tipo di Higgs o un po' forse anche quella di Deadman. Lì ho avuto un po' la sensazione che ci sia stata un po' di questa esagerazione gratuitamente, però, senza, perché ci stava bene, era figa, io ti fanno pompare il sangue nelle vene, però forse un pochino esagerato. Un pochino alcune cose se le poteva non se le poteva risparmiare, però a ripensarci adesso fanno un po' ridere, ecco, perdono un po' forse quel... Stai dicendo che forse Kojima poteva mostrare della calma e della ragionevolezza? Forse non lo conosci come pensavo. Lo so. Non ho detto che doveva farlo. Non ho detto nemmeno che mi aspettavo lo facesse, non mi aspettavo mai che lo faccia. Ho detto solo che forse ha tirato un po' un filino troppo, solo un filino, troppo la corda. No, Marco, mi spiace. Sei fuori dal fan club. Va bene, dai, direi che ci siamo. Che abbiamo parlato anche troppo. Quanto è venuto? Per fortuna che doveva essere una di quelle leggere, quindi non vi rompiamo le palle oltre. Io sono Marco. Beh, lui era Jacopo. Io sono mutato, ma sono Jacopo. Lui è Jacopo. Grazie mille per averci ascoltato tre elucubrazioni filosofiche. Speriamo, non so, non dico di avervi divertito, ma almeno un attimo. Ecco, magari che non abbiate riso con noi, ma di noi in questo momento. E grazie ancora per averci ascoltato. Continuate a giocare. Ciao ciao.